Un nuovo partito che si ispira a Berlusconi, alla sua personalità, e che sarà fatta dalla sua Berlusconi Generation, che è quella che è cresciuta secondo alcune lezioni, che sono lezioni innanzitutto di vita e non di partito. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Abbiamo tempo per incazzarci, caro Parenzo, abbiamo tempo, abbiamo tantissimo tempo, come al solito, fino alle 21, se qualcuno non ci chiude prima, però, ecco. però voglio iniziare questa sera con un applauso. Mandiamo subito l'applauso, un applauso, veloci. Dopo tante polemiche sembrava che la diminuzione dello stipendio fosse in realtà una mezza farsa, risparmiano solo 1.000 euro perché solo l'indennità e non anche gli altri soldi che vengono dati ai presidenti della Camera e del Senato. Grasso, il presidente Grasso, presidente Grasso, cosa ha deciso oggi? Ha deciso che tutta l'indennità, compreso tutto, che è intorno ai 18.000 eccetera, viene ridotta da 18.600 a 9.000 euro al mese. Si è dimezzato anche la scorta e ha dimezzato anche, se non sbaglio, ha dimezzato oltre la scorta. No, non ha più il suo ha rinunciato agli appartamenti. Non hai letto nulla oggi, ma non importa. Ma io ho letto tutto, sei tu che non hai letto nulla, è diverso. Qualcuno non è d'accordo, senti l'amico Lanfranco Pace del Foglio, ti prego, sentilo. Che un presidente della Camera, un presidente del Senato, appena eletti, con le loro belle facce fresche, vengano a dirci che sono ridotti lo stipendio del 30%. Ah, io mi vergogno per loro. Voi sarete contenti, io mi vergogno per loro. Pace, il Foglio, mi vergogno per loro. Ma perché? E che te devo dire? Si vergogna per loro. Perché dice qui il problema non è quello, il problema è tutta una cosa di facciata, eccetera, eccetera. Giusto per provocare. Ma giusto per provocare, che stai a mangiare? Che stai a fare? Sto mangiando, non dico... Ma no, ma scusa se c'è una trasmissione radiofonica, scusa, perdonami. È vero che per carità è tutto un grande reality, no? No, non ho, se vuoi sapere tutto, siccome non ho pranzato. No, ma chi se ne frega? Siamo in diretta qui alla Zanzara. Te lo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io. Ma in questo caso farebbe benissimo, cara signora. Beh, cara donna Assunta, mi duole comunicarle che sono giorni che non ho più segnalazioni sul busto del caro almirante. Anche Cacciari, però, i costi della politica è una demagogia di cacca. Beh. Eliminando il finanziamento pubblico dei partiti, dove c'è stato un referendum. Certo, nel 93. Che è passato come acqua fresca. Un referendum. Dopodiché, non sono questi i costi della politica, vogliamo capirlo finalmente. Beh, già no? Questo. Togliere una camera. Vuole finire un secondo. Sì. Non sono questi. Finiamola con questa demagogia di cacca. Ti ho già detto che anch'io ero un sorcino? Lo volete capire o no? O no? Ti ho già detto che ero un sorcino o no? Tu sei un fan di Renato Zero, certo. Eh sì, sempre è stato, andavo là... Anch'io, da sempre. Sì, però... Vabbè, lasciamo perdere. Andrea Romano, scelta civica, entrando in Parlamento ci ho rimesso dei soldi. Ma come? Che vuoi fare? Personalmente, a proposito di questioni personali, io sono appena entrato, ci ho già rimesso dei soldi perché prima facevo dei lavori che non posso più fare. Non quindi lo sapevo. No, ma infatti sono contento di averlo fatto, sono molto. E lo sapevo anche prima. Ma il protagonista di oggi è amici miei. Aspetta un attimo, amico no, mio. Non far polemica da subito. Aspetta un secondo, aspetta, che abbiamo tantissima carne al fuoco. Il protagonista di oggi è un altro. Giustamente Dago Spia cosa dice? Cosa scrive? Aridate Cecapezzone, aridate Cecapezzone. Qui abbiamo Vito Crimi, il signor Vito Crimi, tutto serioso, no? Col pizzetto, oggi in giacca e cravatta, parla sempre un po' così. In realtà poi sentirete fra poco in un audio esclusivo che abbiamo, che insomma anche lui si lascia andare un po' al grillismo, Però la prima gaffe l'ha fatta sul Presidente della Repubblica. Napolitano tenuto sveglio da Grillo. Si sente malissimo, però vale la pena. Siamo andati a parlare con il Presidente Napolitano. Beppe è un po' cercato di spiegare al Presidente Napolitano, che è stato attento, possiamo dire che non si è addormentato durante quello che diciamo. Beppe è stato capace di tenerlo abbastanza bene. Beppe è stato capace di tenerlo abbastanza sveglio, poi si è scusato, viva Dio, poi si è scusato. Bravissimi giornalisti, io li chiamo così, bravissimi ragazzi, giornalisti, per me non fa differenza, di Radio Luis per la Zanzara, hanno realizzato questa straordinaria intervista a Vito Crimi ieri sera uscendo dall'albergo dove era Grillo nel rione Monti. L'audio è esplosivo, vi faccio sentire qualche accenno, poi nel corso della trasmissione manderemo in onda tutto ovviamente. I giornalisti mi stanno sul cazzo, fanno solo gossip, li sto rifiutando tutti, sentite. Rispetto alle TV e ai giornalisti, guarda che veramente li sto rifiutando tutti, perché... E infatti noi non siamo... Sono veramente sul cazzo, guarda, i giornalisti è una roba... Ma perché purtroppo è sempre il discorso di cercare lo scoop e basta. Sì, il gossip... Hai visto come lo dice? Mi stanno veramente sul cazzo i giornalisti, mi stanno veramente sul cazzo. Poi vi regalo a questo proposito, vabbè dopo, a tutto dopo, lo faccio dopo, vi faccio sentire dopo, alle 19.15 vi faccio sentire il resto, cari ascoltatori. Vito Crimi, esplosivo, il gaffer per eccellenza, 800 24 00 24, la Zanzara, ci sei Parenzo, iniziamo? Beh, certo che sono partiamo? Qui, siamo già partiti in realtà, Siamo già partiti. Giampaolo Vanoli, buonasera. Buonasera a voi. Come sta, professore, dottore, come la devo chiamare? No, Paolo. Paolo, signor... Non sono né professore né medico, un giornalista investigativo in pensione. Oggi. Maestro, la posso chiamare maestro? Ma no? Neanche, perché ma... maestro? E che ne so, beh, tu... maestro. Io sono come te, un cittadino attivo. Un cittadino attivo? No. Vabbè, comunque ognuno si può sentire come si sente. Non si sente né professore né giornalista, è cittadino attivo, iscritto ai meetup di Grillo, sì o no? Sono iscritto, faccio il consulente per certe aree, però ci sono i portavoce che portano la voce del Movimento 5 Stelle. Io certo. Qui sono a titolo personale, non parlo a nome del Movimento 5 Stelle. Benissimo, precisiamo tutto. Lei però è iscritto da quanto, scusi, ai miei famosi meetup? Un anno e mezzo circa. Un anno e mezzo. Ogni tanto dà dei consigli a qualcuno del Movimento? Sì, ovviamente. Beh, certamente. Certamente. Lei è molto ascoltato nel Movimento? Non lo so. Forse. Lo vedremo nel tempo. Chi lo sa. Allora devi sapere, Parenzo, che il signor Giampaolo Vanoli, cittadino Giampaolo Vanoli, come ama essere chiamato, è un grande nemico dei vaccini. Un grandissimo dei vaccini, sì, ma come sai, c'è un filone di pensiero molto. Siamo alla follia. Ma perché? Lascia sì, perdere. Può essere anche contro la ruota per quello. Ma, no, della ruota. Ma lascia perdere. Ma noi possiamo nutrirci con le bacche, curarci con i fiori di lotto. Paolo, ti posso dare del tuo, Paolo? Certamente. Allora, puoi dire subito che c'è un filone di pensiero molto. Ma lo so bene. Molto forte. Molto forte e sempre più agguerrito. Esatto, contro. Oramai 40 anni io sono stato uno dei pionieri su questa, linea. Esatto. Contro le vaccinazioni. 82 anni non sono più un ragazzino, certo. Ho raccolto delle informazioni che pochi al mondo hanno, sì, certo. Oltre ad aver studiato Zitto. Personalmente sì. e in modo attento sì. e continuativo i danni che le sostanze vaccinali in toto producono sugli organismi viventi. Sono stato tra i primi ad aver segnalato la cosa a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Scusi professore, no scusi no. Paolo. Paolo, scusami Paolo, ma diciamo la verità, si può dire che il Movimento 5 Stelle è contro i vaccini, no? No. E Grillo su questo è stato informato? Di questo, di queste tue posizioni? Ci hai parlato qualche volta con il signor Grillo? No, io non parlo con Grillo, io parlo con il mio gruppo dove faccio consulenza. E loro sono tutti d'accordo? Loro sono tutti d'accordo su questa cosa qua? No, loro non sono d'accordo, stanno dibattendo il problema. Stanno per dibattendo cui il problema. Dovete chiedere a loro. ci sono i portavoci, rivolgetevi no, per ai portavoci, carità, non voglio essere coinvolto assolutamente in polemiche varie. Oggi sono il cittadino Paolo Vanoli, assolutamente. Interrogatemi per questo, assolutamente. Sui vaccini rispondo, sulla medicina naturale rispondo, assolutamente. A titolo personale, ma coinvolgendo magari altri nominativi di ricercatori, non scienziati, c'è dubbio, non c'è medici dubbio. Che la pensano come me, compreso l'Istituto dei Tumori che recentemente ha parlato attraverso un suo buon e valido esponente che attraverso il mangiare si può anche evitare di cadere malati di tumore. Cioè, vabbè, certo, sì. Cioè, non ho capito, no, in che senso col mangiare si può... Noi mangiamo porcherie dalla mattina alla sera. Ah, vabbè, mangiando meglio uno, diciamo, potrebbe ammalarsi di meno. Vabbè, certo. Vabbè, quello si sa, insomma, che il cibo... Lo dice anche Veronesi che diventando vegetariano c'è meno probabilità Veronesi non direbbe mai di non tumore. Fare i vaccini, su, non diciamo per forza alle 18:40 delle stronzate. Ma cosa ha detto? Scusi, cosa ha detto di stronzate? Ma come si fa a venire in una radio importante come Radio 24? L'ho invitato io ma Paolo Vanoli. Hai fatto bene a invitarlo perché chi lo conosce lo evita. Ma è uno che fa una battaglia contro i vaccini, ognuno ha le sue battaglie. È medico? No, è un giornalista investigativo. Quando una persona è capace è medico, di... No, aspetta. Scusate se interrompo, ma quando uno dà dello stronzo a un altro o dice quel tizio bravo, dice stronzate, bravo, deve dimostrare ciò che afferma. Bravo. Lei è in grado di descrivermi adesso, seduta stante, il meccanismo intracellulare che avviene quando si introduce a livello di circuito sanguigno delle sostanze eterologhe estranee? Me lo spieghi adesso, immediatamente. No, dico solo una cosa. Zitto, stai zitto. No, io non sono un medico. No, zitto, non dica stronzate lei. Eccoci qui con Giampaolo Vanoli, giornalista investigativo, iscritto al Meetup da un anno e mezzo, parla a titolo personale, consulente in scienza della nutrizione e medicina naturale. Paolo Vanoli, ma i vaccini fanno diventare gay? È anche una possibilità. Quando una sostanza tossica disturba la funzione principale, cioè la salute di un essere umano in fase di formazione come è il bambino, può capitare che la personalità non si formi nel modo adatto e come dovrebbe essere. Sapete benissimo che l'ambiente può influire sul carattere della persona, ma non è solo l'ambiente esterno che può influire sul carattere della persona. Per cui lei mi sta dicendo che i vaccini... l'ambiente interno, per cui tra le mutazioni genetiche che i vaccini inducono, le immunodepressioni che essi creano nell'organismo, le malfunzioni cellulari e tissutali e cerebrali, può esistere e ci può essere il collegamento alla omosessualità. Scusi un attimo, però l'omosessualità non è una malattia. E chi lo dice? Beh, secondo lei è una malattia? Per me è una malfunzione della personalità. Cioè una malattia. È una malattia della personalità, una malattia di ordine psichico. Psichico, che può essere, che secondo lei viene provocata dal vaccino. Non farmi dire cose che non dico. No. Essere provocata anche dai vaccini. Ma non solo, ovviamente. Non solo dai vaccini. Scusi, però l'OMS ha tolto, diciamo, l'omosessualità come malattia. Beh, grazie. La lobby dei malati è diventata potente, è giusto che cambi la legge. La lobby degli omosessuali, dice lei, sì. Certo, la lobby degli omosessuali. E sempre più sarà potente perché queste problematiche genetiche e funzionali della psiche umana che viene distorta nella fase di formazione anche dai vaccini, cioè dalle sostanze tossiche inoculate attraverso il sangue, producono queste possibili alterazioni psichiche nella formazione prima dell'adolescenza. Capito, Parenzo? Ma come? Ma gli dai anche corda? In che senso, scusa? No, ma voglio dire, perché non prende la corda e non se ne va a portarsi il cane altrove? Bravo, visto che è incapace a rispondere. Bravo, ma lei bravo. Si rende conto delle follie che sta dicendo ma in una radio nazionale? Ma io le mie responsabilità, lo dico da 40 cioè, lei, anni, caro signore. Mi spieghi bene. È nato, si chiama non Parenzo. Sapeva neanche che i vaccini contengono sostanze tossiche. Hai capito? Perché lei ha appena sostenuto delle barzellette. Lei ha appena sostenuto che c'è una c'è il rischio che chi si fa i vaccini diventi possa diventare gay. Io credo che lei non tecnicamente debba essere arrestato proprio. Lei non ascolta e non capisce semanticamente Beh, lei però scusi, delle parole che uso. Paolo, tu l'hai dato Paolo, sì, d'accordo, però insomma, per te è una possibilità molto concreta. Una possibilità. Concreta, però, Ma difatti aumentano sempre di più. Chi? Se no, chi aumenta? Se rimarrebbero ancora come era precedentemente, anche se nascoste molto minore quantitativamente. Ma fermatelo, è pericoloso per se stesso e per gli altri. Ma chi è pericoloso? Ma certo che sono pericoloso, Paolo, Paolo qui con la lista di coloro che ignorano la verità. Certo, scusa, ma come certo? Ma perché tu gli dici certo anche? Dice delle robe deliranti. Perché io ascolto, certo. Io ascolto e voglio capire. Ascolto ma e voglio capire. Da qui non c'è nulla da allora, capire. Questo signore, come ti chiami, caro amico? Parenzo, sì. Parenzo, sicuro. Allora, cosa avviene a livello bioelettronico, biochimico e quindi cellulare, tessutale, quando vengono iniettati con certo. I vaccini le sostanze tossiche? A livello di supercazzola prematurata con scappellamento a testa, A4 però, scusi, come fosse Antani comunque. Scusi, non ho capito perché abbiamo parlato assieme. Non ha capito perché c'è la cellula che quando viene inoculata con lo scappellamento poi diventa, poi si intigna e diventa gay. Sì, certo, la certo, è naturale, facendo così si potrebbe ipotizzare anche uno scappellamento a sinistra e non a destra. Certo, poi si intigna. Allora, che se lei è una persona seria, continua il discorso non serio. Non è seria, non se è seria. Solo per deridere delle informazioni, lo passa tra i suoi simili. Esatto, informazioni. Simili. Si chiama Parenzo, e comunque. Allora lei si pulisce la lattuga. Scusi, scusa Paolo. Ma se lei ha la febbre, scusi. Scusa, non un attimo solo, Parenzo, un attimo solo. Voglio chiedere un'altra cosa importante. Scusa un attimo, Paolo, ma... innanzitutto tu dici che c'è la famosa urinoterapia, no? Urinoterapia, giusto Paolo? No, hai capito male, urinoterapia. Ah, scusa, urinoterapia, no, la propria urina. Ma se la beva lei? Ma come ti rendi conto? Ma se la beva lei la sua urina? Già fatto per qualche anno per poter capire il meccanismo e oggi sono in grado di spiegare i vantaggi e gli svantaggi. Sì, ma io non ho capito, bevendo l'urina, cioè è la, diciamo, al posto delle medicine uno farebbe bene a bere l'urina innanzitutto. Certo, sì. In certi casi è risolutiva. Per esempio per che cosa? Per esempio per l'infiammazione agli occhi, sì. Non la bevi ma la metti a gocce negli occhi, sì. E ti toglie qualsiasi tipo di infiammazione che con gli antibiotici non va via. Ma, sì. Ma anche per il cancro? Il cancro può aiutare ma non è la soluzione adatta. No, certo, ma mi dicono che sua moglie addirittura questa cosa qui, che cosa ha provocato l'urina? Il ritorno del mestruo, quando aveva una certa età ha smesso di avere il mestruo, sì, e gli certo. È ritornato per altri 3 anni. Con l'urina? Ha ritardato, esatto. Beh, ma questo qua è eccezionale, Parenzo? No, non è eccezionale, è normale per chi conosce queste cose. Adesso sono... Però sono, io questa cosa qua... Oltre che disgustato, sono basito di un signore. Beh, ma è giusto, l'ignoranza paga sempre, è giusto si che beva lei l'urina. Questa condizione spirituale. Se ha la febbre, si fa, le do anche la mia, guardi, se vuole, da bere. No, non mi serve, no. Mi basta la mia e avanza. Bisogna bere la propria. Perché ne butto via di più di quella che bevo. Quando lei verrà a contatto con me, se ma vuole, mai? Io sono disponibile. Ma io Paolo. Urina, e ne parliamo urina, di persona. Per niente. Un attimo solo, Paolo, ma anche Berlusconi allora per gli occhi dovrebbe prendere bere la sua pipì. Non ho capito, scusa. Anche Berlusconi per l'uveite che ha avuto dovrebbe bere la sua pipì. Io glielo consiglierei. Ah sì, addirittura? Sì, sì, senza problemi. Cioè, professor Zangrillo, che è in ascolto, guardi che c'è un consiglio fenomenale che viene da... Provare per credere, è inutile fare le chiacchiere. Quando uno non sa, non può neanche dimostrare il contrario. Di conseguenza deve fare per comprendere. Allora, professore, no, scusi, io dico sempre professore perché lei è talmente esperto che... No, mi devi chiamare Paolo. Paolo. Cittadino attivo Paolo. Ti chiamo tra un quarto d'ora perché abbiamo la pubblicità. 800 24 00 24. Parenzo, tu stai buono, perché voglio sentire. Tra poco. Per me è una malfunzione della personalità, è una malattia della personalità, una malattia di ordine psichico. Un'altra delle frasi cult del momento, Carlo Giovanardi, un mito, una leggenda, che dice guadagno meno di tutti i miei compagni di scuola. Beh, deve essere particolarmente fortunato, Parenzo, il signor Giovanardi, no? Sì, perché non è dice... una cosa che mi preoccupa molto di più il bevitore di urina che non vuole vaccinare. Oddio, un attimo, sì, sì, un perché attimo. Allora, no, perché sono veramente arrabbiato, incazzato, uno che dice le cose. E allora tu che lo assecondi, sì, ma domani se ti vede l'influenza devi mangiare la lattuga, devi mangiare l'erba, i fiori di loto. No, veramente non, loto non ha detto nulla di tutto mangia quello che stai... Dai, non vai, ha sì, detto niente. Crimine, robe crimine, ma non si possono fare. Giovanardi, Giovanardi. Quindi io esattamente come lui sono online, ho le spese a Roma, porto a casa forse come un funzionario di banca, forse meno di un funzionario. Fra tutti i miei compagni di scuola sono quelli che guadagno meno. Poi volete che i parlamentari in Italia, per fare i parlamentari, debbano pagare loro? Facciamo. Basta che mi dicono che cosa deve fare un parlamentare, che lo fa a tempo pieno. Io sono online, io vivo con quello che prendo. Capogruppo al Senato del 5 Stelle, il gaffer del giorno, Crimi, aridateci Capezzone, scrive giustamente Dago Spia, intervistato da Radio Luis per La Zanzara, due bravissimi ragazzi che lo hanno intercettato ieri sera davanti all'albergo Rione Monti, dove si trovava Grillo, dove era andato Crimi evidentemente a consulto, a consulta. Ha detto innanzitutto che i giornalisti gli stanno sul cazzo, ma risentiamo questa cosa qua, i giornalisti mi stanno sul cazzo, ma non è la sola cosa che ha detto. Rispetto alle TV e ai giornalisti, guarda che veramente vi sto rifiutando tutti, guarda, perché... E infatti noi non siamo... veramente sul cazzo, guarda, i giornalisti è una roba... Ma perché purtroppo è sempre il discorso, ma di cercare lo scoop e basta. Sì, il gossip... Bersani doveva mollare il giorno dopo le elezioni, sentite... votare la fiducia e nel caso in cui la prima cosa che non fiducia vi piace in bianco, via no, fiducia in bianco, perché fiducia in bianco è come basta, firmargli un assegno, basta, è finito il tempo della fiducia in bianco, cioè è una lezione che devono prendere, cioè la lezione che doveva prendere Bersani al primo giorno dopo lezioni doveva essere: signori, ciao, avete ragione, i cittadini italiani hanno detto che abbiamo sbagliato tutto negli ultimi 20 anni, ma anche nei 30 anni precedenti, dobbiamo lasciare il posto a persone della società civile. Non facciamo un cazzo da un mese, solo nomine, ripete la parola cazzo, poi dice che, non ha, poi dice che è colpa nostra, no Parenzo, no? Poi dicono che è colpa nostra, poi dicono che è colpa nostra. Lasciamo perdere, va, sull'uso della parola cazzo, che ormai è totalmente sdoganata. Pure il precisissimo Grimi si è grillizzato, essendo lui grillino, però un grillino, diciamo, un po' compito, serio finora. Noi, questo qua è un edito, voto noi, normativo noi fino pazzesco adesso. Non abbiamo fatto un cazzo, abbiamo solo votato scegliere cariche. Lunedì si individuano le commissioni, poi le commissioni vengono convocate dopo 2 settimane, scelgono i presidenti, che non è finita, convocano per scegliere i presidenti, i quali poi convocano le commissioni, certo. Cioè passiamo un mese e mezzo a non fare un cazzo con uno stipendio quello che è, lasciando, cioè, il paese in un momento in cui è in particolare questo è il Parlamento difficoltà. Che non va, ed è il problema è il governo, il problema è il Parlamento, il governo. E comunque devo dire che su questo c'ha ragione, eh? Cioè su questo c'ha ragione in pieno, in pieno. Cioè dalle elezioni in poi deve passare un mese e mezzo di nomine, contronomine, c'è una lentezza spaventosa. Sì, non è la democrazia, è la democrazia italiana. C'è una no, non è così, è la democrazia italiana che è spaventosamente lenta. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. La delegazione del PD da Napolitano, la posizione di partenza non cambia, dicono i democratici, un governo di cambiamento guidato da Bersani. In mattinata al Colle capigruppo 5 Stelle con Grillo, il governo spetta a noi, non daremo mai la fiducia ad altri esecutivi politici o tecnici. Berlusconi dopo l'incontro con Napolitano, l'unica strada è una coalizione fra PD e PDL, tocca a noi la responsabilità di dare un governo al paese. Senato e Camera votano vicepresidenze e questori, prima prova dei difficili equilibri fra i gruppi all'interno dei partiti, Grasso si dimezza stipendio e scorta. Il governo sblocca 40 miliardi per i crediti delle imprese, ma il decreto ancora non c'è e Monti promette di allentare i vincoli di spesa per comuni ed enti locali. Cipro si tratta per evitare la bancarotta, Teferuglia e Nicosia, l'Europa chiede il blocco dei capitali nelle banche, BCE, liquidità fino a lunedì. È morto a 61 anni Pietro Mennea, il più grande velocista dell'atletica italiana, il suo record nei 200 metri, imbattuto per 17 anni. Zanzara! C'è una zanzara tigre! Il numero dei parlamentari e dal tema di una Camera delle Autonomie. Su questo versante bisogna predisporre, e abbiamo proposto in merito, dei meccanismi che rendano esigibili i risultati in tempi certi. Bersani sta parlando in diretta dopo le consultazioni al Quirinale. Queste sono le riflessioni che noi abbiamo consegnato al Presidente della Repubblica e naturalmente ci affidiamo alla sua valutazione, alla sua saggezza, perché il percorso, che certo non è semplice, possa trovare per il Paese una soluzione. Grazie. Ecco, c'è l'aria nel letto che mi graffia tutto. È sempre con noi Giampaolo Vanoli, giornalista investigativo. Buonasera. Ciao carissimi. Eccoci qui, Paolo. Hai bevuto nella pausa un po' di urina intanto? No, io lo faccio solo quando serve. Scusa Paolo, ma quante volte al giorno bevi l'urina? Al mese, no, al mese. Io l'ho bevuta per 4 anni consecutivi, una volta al giorno, al mattino, la seconda che facevo, 3/4 di un bicchiere d'acqua. Ma non fa un po' schifo? Ma che schifo? Assolutamente, se ti ami ti sai anche bere, se non ti ami ti fa schifo, ma perché ti fai schifo psicologicamente. Ah, cioè se uno non si ama non riesce nemmeno a bere. Certamente, tu non lo sai e ve lo dico, sì? In Australia e in Canada stanno facendo delle in cliniche e ospedali, sì, ufficiali, non parliamo di medicine, sì, alternative o naturali, quelle che insegno io, sì, addirittura la coproterapia, cioè l'utilizzo, sì, delle feci per far guarire malattie gastroenteriche che non sono guaribili con i farmaci allopatici. Cioè, scusa Paolo, in questo caso si mangia si mangiano i propri non escrementi? Non la propria, ma prendono le feci di giovani sani, controllate, sì, verificate, sì, e poi vengono immesse attraverso la bocca, sì, in forma liquida. Ma perché non l'hai fatto attraverso il clitere, sì, dall'ano? Ma perché non l'hai fatto fino adesso? Scusa. Ma perché non ho malattie gastroenteriche, io sto benissimo, ho 72 anni e sono nel pieno delle mie forze. Certo, tu comunque consigli per certe malattie la coproterapia, giusto? Sì, esatto. Tanto per parlare, si chiama merda la coproterapia. Beh, chiaro. Insomma, mangiare la merda, questa, esatto, è la sostanza, ma è quella. Sotto controllo di tecnici specialisti. Capito, Parenzo? Ma perché gli dici esatto, gli dai corda come fosse normale? Perché? Ma perché non deve... Cioè... Ma quando uno ignora, la prima cosa che deve fare è essere curioso. Scusi, e nell'ordine... Un plauso a tu che ti interessi, ma no, tu che invece parli dietro e non sai nulla, esatto, e dai di stronzate, esatto, proprio per la tua ignoranza su, benissimo, cose che hai sentito per la prima volta, oh, cerca di informarti che è meglio. Senta, signor Paolo, a Milan si dice ben giò dalla pianta. Hai capito? Che significa, scusi? Ben giò dalla pianta, ignorant. Cioè, che vieni giù dalla pianta, sì, eccetera. Senta, professore Vittorio, e ancora come la scimmia appollaiato sul ramo, deve scendere. Ma sì, scusa Paolo, non l'hai detto queste cose a Grillo, tu che sei iscritto comunque ai meetup da un anno e mezzo? Ma io non mi interesso per il Movimento 5 Stelle per la medicina naturale, io sono autosufficiente in questo. Sì, ma beh, però ne parli con quelli... Ne parli... quando mi chiedono sicuramente nel senso di mancante, no, su... però vuol dire parli deficit mancante, parli, scusa, con quelli del Movimento 5 ma Stelle, dai, quando mi chiedono sì, quando non mi chiedono non faccio propaganda, non... Beh, scusa, sei referente del Movimento, tu mi hai chiesto, sì, io rispondo, no, certo, ma tu lei, sei giornalista investigativo, un attimo, farò investigare la mia urina, gliela mando così me la investiga. No, te la devi bere da solo, perché solo bevendo capirai, se non la bevi non capisci. Hai capito? E non mi interessa analizzare la tua urina, so che non è compatibile con la mia. Uno deve bere il proprio piscio, non quello degli altri. Referente del Movimento 5 Stelle su ambiente e salute del meetup di Segrate, così? Esatto. Referente. Come esatto? Ma è una cosa gravissima! Ma perché è gravissima? Che bisogna bere la propria urina. Scusa, ma tu ti sei mai inserito per caso in un libro a studiare un po' di biologia? No, mai. Ecco, mai. Allora è evidente mai che tu possa, sì, rispondere in questo modo. Però Paolo, scusa, Grillo, però lei ha detto una cosa grave, un attimo, Grillo nel 2008 nei suoi spettacoli diceva che l'HIV non esisteva, come sostiene lei. Ma io sostengo che l'HIV non è la causa dell'AIDS, così come altre migliaia di medici nel mondo affermano la stessa cosa. Lei dice che sostanzialmente... L'ultimo Luc Montagnier, il quale ha detto Montagnier, che l'HIV non ha nulla a che fare con l'AIDS. Ti dirò di più, l'HIV di più, non è la causa, ma la conseguenza della immunodeficienza acquisita. Però scusami Paolo, ma l'AIDS secondo te, sai che c'è una... È un insieme di malfunzioni del sistema immunitario provocato da varie concause. Dunque non esiste così come ce l'hanno raccontato l'AIDS. Una cosa... Come formulato, come diciamo causato dall'HIV, non è una balla colossale. Una bufala delle multinazionali. No, serve per avere ai loro centri di ricerca i finanziamenti per la ricerca infinita come si fa per il cancro. Su questo Grillo è d'accordo però? Non lo so. Beh, non lo ha detto, lo ha detto. Con lui non posso dirti se è d'accordo o no. Certo. Vabbè, comunque gli hai mandato una documentazione, mi risulta. Dei vaccini. Ah, dei vaccini, non sulla cosa, No. Non sulla sull'AIDS. No, anche perché ognuno, io sono un seminatore, semino, e poi ognuno deve prendersi le sue responsabilità e andare a fondo alle questioni. La vita è personale, anche, la salute è personale. Certo, anche un gran bevitore, tra l'altro, un gran bevitore. Beh, no, adesso questa è una battuta, Paolo. Non lo so, permettimela, consentimela. Io non entro nel merito dei comportamenti altrui, io vado al mio. Ecco, no, ma interessava questa cosa di tua moglie, però, che è riuscita a riavere le mestruazioni. Certo, dopo l'ho consigliato, l'ha fatta, lei addirittura l'ha annacquata. Col piscio, siccome l'ha annacquata? La sua. Ah, la sua con che cosa? Con l'acqua? Con l'acqua. E gli sono tornate le mestruazioni a 70 anni. Esatto, erano 3 mesi che quattro, che non le aveva più, gli ho detto, su, tu prova, è probabile, siccome ti reimmetti degli ormoni, può darsi che scateni una nuova discesa del mestruo, cosa che è puntualmente avvenuta. E un consiglio a Berlusconi? No, beh, beh, sì, assolutamente. Un consiglio a Berlusconi lo vogliamo dare o no? Ma te l'ho già detto. No, diamolo pubblicamente. Occhi, esatto. Se ci sono fatti infiammatori, con la sua urina può aiutarsi ad eliminarli. Bene, Parenzo? No, mi faccio capire in 30 secondi. Lei è responsabile. No, non faccio commenti, solo notizie rispetto a quello che lei ha detto. Uno, se ho capito bene, lei è responsabile delle politiche della salute e del... No, referente del 5 Stelle su ambiente e salute del meetup di Segrate. Così. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che ho capito... Di lavoro come consulente. Consulente. La seconda cosa che ho capito è che lei beve urina e in futuro... Qualche volta, quando serve. Mangia la merda. Quando... La terza cosa che ho capito di tutta questa straordinaria cosa che sono cucinati, la prima cosa... Che sua ma non solo lei, ma anche sua moglie, per farsi tornare il ciclo, ha bevuto. Ma guardi che l'urina è che famiglia è! Caro signore mancante di fosforo e di magnesio nel cervello, lei dovrebbe informarsi storicamente a quando risale la prima iniziazione all'urina. Ne parleremo la prossima volta, professor. No, ti dico semplicemente, Paolo, che il 69, sì, 69 che si certo fa attualmente e nell'antichità sessualmente parlando. Sessualmente in che senso? Questo è interessante, però ne parliamo magari domani, Paolo. Grazie, un abbraccio. Ok, ciao. Un abbraccio, caro. Carissimo. Amiran Sedis, ben giò dalla pianta. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Usciti fuori da questa follia, caro David, di questo referente del Movimento 5 Stelle, il mitico Paolo Vanoli, che ci parlava delle varie terapie per affrontare meglio la vita di oggi. Sì. Direi di sentire Napolitano che esce dal Quirinale, sono pochi secondi, ma è la conclusione. Ogni tanto dobbiamo tornare sulla terra, no? Torniamo sulla terra con Napolitano. Buonasera, sono qui per salutarvi, ringraziarvi dell'impegno, insomma abbiamo lavorato, voi modestamente anche io, e come facilmente potete intendere ho da riordinare gli appunti e le idee per vedere quali decisioni prendere, e domani presenterò e motiverò le mie decisioni. Ti ha beccato, come ti stendi nel letto, quel noioso insetto. Beh, molti hanno interpretato questa cosa come una bocciatura dell'ipotesi Bersani, perché insomma devo riordinare le idee, eccetera. Beh, normale. Però sono indiscrezioni, ovviamente, no? Mica poteva dargli il carico già stasera. No, d'accordo, no? Però mi sembra che che le cose siano così, come ve le stiamo descrivendo. Magari ancora stanotte. C'è un'ultima notizia che è arrivata, è quella che i Marò, pensa che figura di cacca, sì, a proposito di cacca che abbiamo fatto, i Marò tornano in India, accordo con l'Italia, una cosa penosa. Prima dice restano in Italia, poi c'è stato un casino internazionale, adesso tornano in India. Una figura di cacca, la possiamo dire o no, che abbiamo fatto una figura di cacca? Beh, visto anche il tema, diciamo, precedente impostato dal professore esimio, mi pare che sia azzeccatissimo. Molti vogliono il professor Giampaolo Vanoli ospite fisso della Zanzara. Sì, la rubrica di medicina alternativa. Certo. Ma quale medicina alternativa? Lezioni di vita, lezioni di vita. Sei tu che lo accarezzavi. Ma tu la mangeresti la cacca? Ma io in quella famiglia lì, con rispetto, cioè, ma in quella famiglia dove c'è la moglie che fa quegli intrugli con quelle cose, lui che si beve l'urina, ma io non vado neanche a prendere il caffè, ma neanche busso alla porta. Ricollocazione per Ingroia, indovina dove l'hanno mandato? Dove l'ha mandato? Al tribunale di Aosta, unica sede nella quale non era candidato, al tribunale di Aosta. Poverino. Amico mio. Ah, quindi Cogne e tutta la circostanza. Ma che Cogne? Spero adesso farà riaprire il caso di Cogne. Ma è sicuro, è lì, farà riaprire Cogne. 800240024, Dario da Milano. Oh, buonasera a tutti. Vada. Allora, senti Cruciani, una cosa, il discorso della pisciatina può essere comunque una buona idea, non so dove l'avete trovato sto qua, perché adesso tutte le volte che bevo una birretta potrei anche pensare che risparmiando i soldi mi posso fare un bel bicchiere di pisciata e magari ci risparmio e ci guadagno anche in salute. In ogni caso non siete stati giusti, perché cazzo non avete fatto intervenire l'ambulanza adesso, tutto il rispetto. Che ambulanza? Ma non c'era bisogno. L'ambulanza ci voleva, ragazzi. Non c'era bisogno. Non c'era l'esercito. Comunque niente, il fatto che lui sia comunque anche un consigliere del Movimento 5 Stelle, io l'ho chiamato comunque anche per questo. Non ti senti, Cruciani, un po' defraudato di quello che hai votato, che ho votato anch'io? Ma vada a quel paese, Dario, ma che vuol dire? Ma no, no, ma non no, c'entra, vuol dire. Ma non c'entra nulla. Hai votato 5 Stelle, ora devi bravo. Allora, io volevo solamente dirvi questo. Allora, sono abbastanza sconcertato, perché comunque se mi metto nei panni di quello che è a casa da 2 anni o che è senza lavoro, noi che abbiamo votato il 5 Stelle ci aspettavamo che loro comunque cambiassero il sistema. Ma sono passati tre giorni, oggi hanno chiesto il Copasir, oggi hanno chiesto niente, i servizi... Ma non fanno niente, che vuol dire non fanno niente? Sono passati tre giorni. Stanno dicendo in tutte le salse, loro vogliono il questore e pensano che questi... Fai a chiudere? Ma no, ma è giusto chiedere... Quando rifiuti tutto. No, ma l'unica cosa seria è chiedere il questore, così possono controllare i conti, no? Ma sono d'accordissimo, ma è uno dei compiti che loro dovrebbero avere, ma dovrebbero avere anche dei compiti un po' più pesanti, se permetti. Per cui se c'è un programma che si avvicina a loro, almeno a qualche punto dici che sei tu che l'hai fatto, così prendi i voti. E non tirandotene fuori. Allora io mi sto pentendo di aver fatto questa scelta, guarda, mi dispiace, perché secondo me hanno mancato di lungimiranza politica. Ma gli italiani sono incredibili, cioè sono passati tre giorni e già lei sta pensando che lei è già deluso, ma non è successo nulla fino adesso, nulla. Però contano anche le parole, poi vedrai che tra qualche giorno arriveranno anche i fatti. L'unico discorso che dico io è anche penso che Parenzo lo condivida, è che la lungimiranza politica era dire ok, noi siamo contro il sistema, ma siccome che vogliamo fare i nostri punti, ci dobbiamo per forza alleare con qualcuno, non me ne frega con chi. Ma in questo modo avrebbero fatto passare i questori, la vigilanza sulla RAI, avrebbero controllato questi cazzo di parlamentari, ma l'avrebbero fatto da dentro. Grazie Dario. Giovanni da Prato, buonasera Giovanni. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Abbassi la radio, non ci dia buonasera ogni volta. Se ogni persona che si presenta dice buonasera, ma lei si rende conto che diventa questa radio una cantilena insopportabile? Verissimo, Giovanni, verissimo. Ci mandi a fare in culo più che altro. Allora, buone terapie a tutti. Allora, volevo dire... C'è buona urinoterapia a tutti. Esatto, buona urinoterapia a tutti. Volevo dire una cosa, insomma. Ora, il discorso del grillinismo in Italia, no? Ma lo vogliamo capire che dobbiamo capire? Il popolo che ha preso posizione, cioè basta andare lì a dire ma i grillini è il popolo italiano che ha preso posizione e ha deciso di mettersi in Parlamento, far finire i politicanti di mestiere di fregarci, di rubarci, perché di questo si parla, Cruciani. Non vorrei rischiare una querela, quindi mi dica quando fermarmi. Ma non c'è nessuna querela, sta dicendo delle cose che dicono anche politici navigati, insomma. Ok, perfetto, quindi più di 20 anni ci prendono per il culo, benissimo. Ora siamo entrati in Parlamento. Oh, da ricordare che su questa questione dei Marò, il ministro degli esteri Terzi, il 14 marzo, ricordava: abbiamo una posizione molto solida di cui siamo perfettamente convinti, e te credo, avete rimandati là. Grazie Giovanni. Adriano da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo ritornare sul discorso di prima, quello sui vaccini. Sì, sì. Secondo me non è stato affrontato nella maniera giusta. Ma chi lo voleva affrontare in maniera giusta? Ma non volevamo aprire per proprio il caso dei vaccini, ma manco per niente. Abbia pazienza. Lo so, però mi sembra che Parenzo ha cominciato a insultare. Scusi, cioè, nel senso, io capisco che magari le argomentazioni dell'altro interlocutore potevano essere non condivisibili, però la tematica dei vaccini, a mio avviso, andrebbe affrontata in maniera diversa. Guardi, noi non la affrontiamo, questo è il punto. Non la vogliamo affrontare, va bene? Va bene. Grazie. Roberto da Prato. Roberto? Pronto? Sì, dica. Sì? Buonasera. No, io vi chiamavo per il discorso dei vaccini e dell'urinoterapia. Che vuole sull'urinoterapia? Nulla, volevo dire che l'urinoterapia era un'ete praticata fino alla metà dell'Ottocento nelle campagne toscane. Ho capito, amico mio, appunto, fino alla metà dell'Ottocento, giusto appunto. Insomma, cioè, mi ha dato noia più che altro il fatto che Parenzo si sia messo a offendere così gratuitamente. Ma non a offendere. Allora, quello lì, quel signore lì, non è medico. Fa il giornalista d'inchiesta. Fa il responsabile lì, il coordinatore di non so che cosa, dei 5 Stelle, dell'ambiente, eccetera. Ci spiega come fosse la Bibbia assoluta che lui non fa vaccini, beve urina, potenzialmente mangia la merda. La moglie per fare. Cioè, è un quadro agghiacciante, ma di cosa bisogna discutere? Un attimo solo, un attimo. A me non sembrava. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei per andare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Solo per disturbare. Beh, torniamo sulla terra dopo questa ubriacatura grillina e parliamo un po' di quello che ci si può aspettare nelle prossime ore. È fondamentale, Parenzo, è fondamentale. Lo facciamo con il senatore neo entrato in Parlamento, anche lui come tanti grillini alla prima esperienza, Andrea Olivero, Scelta Civica, buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta? Come sta? Insomma, diciamo dopo una intera un pomeriggio in aula e una votazione lentissima. Che ancora non si è conclusa. Lentissima. Che c'è in aula? E si stanno votando gli uffici di presidenza, vicepresidenti, questori, tutte queste cose. Ma questa, hanno ragione i grillini da questo punto di vista, senatore Olivero. La democrazia italiana è di una lentezza esasperante, diciamola tutta. Cioè una cosa troppo lenta. Certamente stupisce il fatto che si debba passare un intero pomeriggio per fare delle votazioni piuttosto semplici. Certo, un pochettino di utilizzo di tecnologie tutto sommato non farebbe male, ecco. Esatto. Senta, scusi un attimo, Scelta Civica ha come leader Monti, lo stesso governo Monti, mi sembra di poter dire, senatore Olivero, lei è una persona libera, può dire quello che vuole, sta facendo, anzi in queste ore proprio sta facendo sulla questione dei Marò in India una figura barbina, diciamola tutta. Cioè, i Marò che tornano in India, è di questi minuti la notizia, i Marò che tornano in India dopo che il ministro Terzi aveva detto che la nostra posizione è una posizione solida, adesso perché è successo quello che è successo con l'India si calano le braghe. Beh, insomma, una figuraccia stiamo facendo, si può dire o no? Beh, credo che non sia certamente quello che ci si immaginava. Probabilmente è stata un po' avventata la prima decisione, cioè quella di non farli ritornare. Noi comprendiamo perfettamente i motivi umanitari, però il rispetto. Io credo che l'India sia un grande paese, noi dobbiamo andare comunque a dialogare, a confrontarsi, a pretendere che ci sia il rispetto delle leggi internazionali. Sì, d'accordo, però il fatto, che prima abbiamo detto che la nostra posizione era solida, il ministro Terzi facendo ritornare dunque non consentendo il ritorno in India, adesso li rimandiamo lì, mi sembra che non abbiamo fatto una bella figura. Certamente no, ma credo anche che alla fine comunque bisogna guardare qual è il male minore, e credo che sia sempre quello comunque del conservare la dignità del paese, dunque? Penso che questo, e quindi in questo caso prima gli accordi internazionali e poi le due persone, dice lei? No, nel senso che poi si potranno trovare le modalità per fare in modo che le due persone vengano trattate come la legge internazionale prevede. Dunque è giusto, è questo l'elemento che abbiamo detto. E dunque è giusto che tornino in India, secondo lei, se c'è un accordo con l'India oppure no? Oppure se fosse per lei la ripetibilità? Io credo che in questo momento sia necessario fare questo e far sì che contestualmente però la comunità internazionale faccia sentire la sua voce, che il rispetto delle leggi internazionali ci sia fino in fondo. Però ribadisco, dobbiamo per certi versi ritenere appunto l'India un grande paese civile, quindi insomma dobbiamo rispettare l'India. Io credo di sì. E dunque affidarci anche alla loro legislazione, si può dire, cioè affidarci anche ai loro tribunali. Beh, dobbiamo affidarci naturalmente chiedendo che ci sia rispetto degli accordi internazionali. Stiamo attenti perché, ahi noi, i tribunali possono anche sbagliare. Noi dobbiamo essere molto determinati nel far valere il rispetto delle leggi internazionali, questo sì. Però, ribadisco, non possiamo nemmeno pensare andare a trattare con l'India come se fosse un grande paese democratico. Però molti parlano di caporetto diplomatico, Parenzo. Adesso, oggettivamente, adesso lei ha difficoltà perché... è esattamente una bella figura, glielo ho già detto, più di questo non posso dire, nel senso che non so esattamente quali siano la caporetto, le condizioni. Una caporetto di Monti, Olivero, si può dire? Una caporetto No, adesso andiamo a dare le cose ciascuno a questo, bisogna vedere un attimino cosa è successo, perché non credo che questi fatti siano esattamente capitati per caso, probabilmente ci sono atti, ci sono decisioni e scelte che sono arrivate anche in questo, probabilmente c'è stato un braccio di ferro e all'interno di questo braccio di ferro forse ci sono anche delle spiegazioni, io non lo so, certamente sappiamo che quando le diplomazie si muovono ci sono sempre degli aspetti importanti da valutare. No, ma attenzione, vediamo un attimino cosa succede nelle prossime settimane, perché potrebbe anche darsi che invece si sia trovata una soluzione che adesso non sappiamo, per certi versi garantisca la dignità dell'India e dall'altro lato garantisca quello che è il nostro obiettivo, cioè far tornare i marò in Italia. Allora, Parenzo, adesso lasciamo perdere questo argomento, ma hai sentito dall'accento Olivero la sua provenienza? Lo senti o no? Lo percepisci? Non l'ho riconosciuto. O no? Beh, come no? Che Cuneo, Piemonte, Cuneo, Parenzo, su, dai! Briatore, Sant'Anchè, la stessa cosa. Non ha un accento così marcato. Beh, come no? Marcato no, perché insomma è uno è da Roma, da quanti anni lei, Olivero? Come presidente lei anche sono 8 anni. Però insomma, Cuneo, Briatore Sant'Anchè, è lo stesso ceppo, no? Briatore Sant'Anchè, giusto? Si offende se glielo dico, no? No. Diciamo che ci sono anche altri cunesi che si possono citare, dice lei. Ricordare, non lo so. Cioè, si vergogna un po', secondo me, essere accostato a Briatore Sant'Anchè. Insomma, diciamo che quantomeno con tutti i loro limiti, ma Giovanni Giolitti, Luigi Einaudi, insomma, forse ci sono delle altre figure da ricordare della mia provincia. Ecco. Ma sono morti, è gente ormai passata. Ma noi vorremmo guardare a quel passato remoto. Dunque, lei un po' si vergogna di essere accostato a Briatore Sant'Anchè, mi dica la verità. Diciamo che non sono propriamente i miei riferimenti politici né anche, diciamo, umani, ecco. Capito, Parenzo? No, ho capito, certo. Senta, ma lei ha votato scheda bianca, no? Perché nell'elezione là siete stati compatti da quel punto di vista, non sbaglio, no? Sì. O avete avuto anche voi qualche francotiratore? No, credo proprio compatti. Però lei, diciamo, tra i due, chi avrebbe votato? Se non ci fosse stata la decisione di gruppo di votare scheda bianca, chi avrebbe votato la Grazia Schifani? Beh, fossimo stati in un contesto diverso, cioè non ci fosse stata questa situazione, ma è chiaro che io ho sempre espresso un grande apprezzamento, stima e simpatia per Grasso, quindi... Senta, lei lo vorrebbe alla guida di un governo? Come? Lo vorrebbe alla guida di un governo? Cioè, voi potreste votare per un governo Grasso? Beh, dipende dal contesto, è un po' come per la questione del Presidente del Senato, nel senso che la persona è assolutamente stimabile, mi farebbe... Sì. Piacere vederlo comunque alla guida dell'istituzione. Dall'altro lato bisogna capire con quale maggioranza, con quale possibilità di andare a governare. Grasso metta Grasso che vuole formare un governo istituzionale, no? Un governo dei grandi partiti, PD, PDL. Sicuramente lo voterei volentieri. Volentieri. Dunque, voi siete per la linea che avete espresso in questi giorni, cioè un governo fatto da PD, cioè centrosinistra, PDL e Monti, giusto? Tutti dentro. Sì. Tutti dentro. Naturalmente però intorno a un programma, perché sennò diventano delle ammucchiate che non servono a niente, perché noi abbiamo bisogno di far sì che ci sia un governo che governi e che non faccia danni, perché diversamente... Ma senta, un governo Bersani che ottiene la fiducia alla Camera e poi un governo Bersani, dunque stiamo parlando di un governo PD Sello ovviamente, governo Bersani che ottiene la fiducia alla Camera, poi va al Senato, chiede i voti a voi e magari anche alla Lega, su un programma che sono gli 8 punti di Bersani, voi lo votereste? Ma io credo che in quel caso dovrebbero andare a verificare un po'. Io adesso a priodisticamente dico ne dubito, però vediamo un istante se oltre agli 8 punti ce ne sono anche un nono, un decimo o qualcosa di più. Cioè lei non esclude il fatto, non esclude il fatto che un governo Bersani possa essere votato da voi al Senato se ovviamente ci sono dei punti che condividete? Beh, io dico che il tema vero oggi è quello dell'andare a garantire la possibilità di un governo riformista. Io credo che oggi un governo che parta minoritario non abbia senso, per cui le dico già subito che non è il nostro obiettivo, noi non stiamo spingendo in però quella per direzione. Far nascere un governo Bersani, per far nascere un governo Bersani, se viene da voi al Senato, ad aver ottenuto la maggioranza alla Camera e magari ha in qualche modo i voti della Lega, non si sa come, sa che c'è anche questa possibilità, appunto, no? Ci sono tutte queste situazioni, tanti se, tanti ma, tali per cui io non credo che questa sia una soluzione realistica, è del tutto campata in aria, ecco, quindi. Ma il suo nome per il Quirinale qual è? Ma io credo che in questa fase non lo riusciamo ancora a scorgere, ci vorrà ancora un po' di tempo, ci vorrà la grande fantasia del presidente Napolitano che ogni tanto Per il Quirinale no, per il Quirinale no. Beh, per il Quirinale bisogna trovare una figura che abbia moltissimi. Cioè lui dovrebbe indicare lui il suo successore, secondo lei? No, questo non credo. Beh, proprio, non è possibile. Assolutamente no. Beh, che ne so, dare un'indicazione, una cosa. Non è possibile. Un attimo solo, aspetta. Pronto. Annarella? Chi è? Come stai, Cruciani? Ah, oh, disgraziato. E perché disgraziato? Scusa, subito così. Come stai? L'altro giorno è venuto a Roma quel paraculetto, Chi è il paraculetto? Parenzo? Adesso se lo visti. Sì, mi ha detto, siete davanti alla camera. Vi siete visti davanti alla camera. Ma hai visto le consultazioni? Stavi seguendo i telegiornali, Annare? Che ha detto? Aspetta, fammi abbassare la televisione. Abbassa la televisione. Sono Olivero, lei conosce la signora Annarella? Che ha detto? Ha visto le consultazioni? Annare, le consultazioni le hai viste di Napolitano? No, sì. Hai visto che è successo? Ma mi sa che amico tuo Bersani non lo piglia l'incarico. Non ce ma la fa. Vaffanculo, cioè, te lo dico subito. Ma no! Ma perché? Ma ciao, non sta a ridere lì dietro, sa? Ma perché? Ma mi sa che c'è un vecchio che mi fa crepare da ridere. Tutte le sere sta sentendo, ancora che mi sente a me. Ma chi? Chi un vecchio? Chi è? Lo senti? Ma chi è? È un signore che viene lì al Quirinale. Ah, uno che... Al Parlamento. Ma scusa, pensa, già c'è la fotografia con quella lì, come si chiama? È quello che hanno fatto la camera. Chi è? Ah, con la Boldrini c'hai già. Bella, io so che è bella, fia mia. Ieri ma due me le ha fatte. Ah, hai fatto già la fotografia ma con la Boldrini? Ma sono baciata. Sono baciato pure la mano. E vabbè, gli hai baciato la mano, non è che... No, ci siamo baciati e poi la prima volta. Sì, e perché hanno fatto la fotografia. E poi dopo invece, siccome non dal Quirinale a piedi, ritornare a piedi senza tutti i pappagalli che si porta a Berlusconi. Ma che c'è? Però la Moriscola sta lì. Non sei arrivato un'altra volta. Scusa un attimo, ma mi sa che Bersani non lo piglia l'incarico. Tu ti preoccupare. Non lo piglia, Napolitano non glielo dà domani l'incarico. Lo dà Berlusconi. No, Berlusconi. Sta mettendo a strada. No, Berlusconi mi sembra impossibile che possa dare l'incarico. Ma lo dà manca a molti. Beh, a Monti no, sicuro. A Monti no, sicuro, anche perché Monti è attualmente già presidente del Consiglio, come no, sai. No, ma poi non ce lo dà perché gli ha detto già dalle vasse di mezzo. Beh, le vasse di mezzo addirittura. Potrebbe darlo. No, dalle vasse di mezzo. Ha visto, gli ha detto niente cosa là perché tanto. Al Senato, sì, al Senato. Sì, allora. Beh, potrebbe darlo a Grasso, però, Annarella. A Grasso? No, a me sta bene. Basta che sono del partito mio. Basta che è del partito tuo, a te che te frega il resto. Ma vaffanculo, cioè, te lo dico subito. Annarella che solo al pensiero che non ci sia un governo Bersani manda a fanculo tutti, una cosa pazzesca. Le viene lo stranguglio. Ma l'audio del giorno è quello raccolto da Radio Luis per la Zanzara, lo spettacolare Crimi, il gaffer del giorno, Aridateci a Capezzone, scrive giustamente Dago Spia, il quale se la piglia con i giornalisti dicendo che gli stanno sul cazzo perché cercano solo gossip. Caro Crimi, si arrenda, siamo in democrazia, ci sono i giornalisti che fanno certe cose, giornalisti che ne fanno altre, giornalisti che fanno la radio, giornalisti che fanno la televisione, giornalisti che fanno gossip. È la democrazia, è la cazzo di democrazia, lo posso dire o no, signor Crimi? Rispetto alle TV e ai giornalisti, guarda che veramente vi sto rifiutando tutti, perché E infatti noi non siamo... Sono veramente sul cazzo, guarda, giornalisti, è una roba... Ma perché purtroppo è sempre il discorso di cercare lo scoop e basta. Sì, il gossip. Si arrenda, giusto Parenzo, si arrenda. No, si arrenda lo posso dire io, lui è il tuo capogruppo, quindi porta gli spetti. Il fatto che abbia votato non significa che io debba sottoscrivere ogni stronzata che si dice. Ma si sapeva che sarebbe stato un Cirque du Soleil continuo. Forse è per questo che l'ho votato, no? Ho capito. Adesso, però, e con noi Andrea Olivero, senatore, che è entrato da poco in questo circo barnum della politica italiana, Scelta Civica per l'Italia, in realtà è entrato con altri intenti. Non quando qualcuno la chiama Scelta Clinica. Ah, perché dicono che è morta. Perché dicono che c'è l'encefalogramma piatto del partito, praticamente. Però forse lei condivide che un po' di ricovero renderebbe... È finita Scelta Civica, senatore Olivero? No, Scelta Clinica. Tutt'altro. No, è comunque meglio clinica che cinica, perché la prima edizione se l'aveva inventata la Mussolini. Come che no? Scelta cinica. Quindi alla fine c'è un miglioramento, via. Scusi, ma Monti, c'è ancora? Cosa fa sul Monti? Il vostro leader assolutamente, oppure no? Assolutamente. È ancora il vostro leader. Sì, ed è il nostro leader, ma soprattutto sta facendo quello che è il suo mestiere. Quindi cioè è un trascinatore di massa del Consiglio. Però scusi un attimo, Olivero, hai un po' esagerato chiedendo pure la presidenza del Senato, diciamo la verità. Lei lo può dire, è una persona libera. Lo dica. No, ma lui non voleva questo. Ma come non voleva? È stato nella condizione appunto di aspirare a qualunque cosa che in qualche modo si liberasse. Non è così. Ma come non è così? Non lo voleva fare? No, ci sono state da parte del PD di Bersani, c'è stata una proposta a lui rispetto alla presidenza. Su questo c'è stata un'apertura del PDL, almeno di alcuni esponenti che gli hanno fatto capire che c'era questa disponibilità. E a quel punto, voglio dire, lui ha detto: vabbè, se così fosse e servisse questo per iniziare con un primo segnale di zelo, ci sto. Beh, scusi, ma lei diceva: lei ha buttato in avanti trattando per se stesso. Ah, non si è offerto? Non si è offerto, e questo lo so di certo perché sono stato in mezzo anch'io in tutte queste vicende. Olivero, però non uno poteva dire: corso in quella direzione. Però uno poteva dire, Olivero, non ci sto e me ne vado. Però bisognava anche avere il coraggio di dire che, appunto, non ci stava. Secondo me, in quella situazione, a fronte del fatto che per senso di responsabilità, perché siccome sul suo nome si poteva aprire un'altra partita magari per il governo, si è reso disponibile, questo? Beh, io dico proprio così, esattamente così. So che in questo momento tutti vogliono vedere la gente affamata di poltrone, ma lui non è affamato di poltrone. La cosa che gli piace fare, questo sì, è governare, ma non nel senso di stare al governo. Gli piace decidere. Gli piace neanche tanto questo, ma di riuscire a fare il suo mestiere, cioè andare a mettere in campo politiche, a trovare soluzioni alle questioni, soprattutto. Però scusi, allora perché se l'è presa tanto per alcuni commenti che ha letto disgustosi anche di vostri, diciamo, di vostri deputati, di vostri senatori? Perché appunto i commenti erano fatti quasi che lui avesse corso fregandosi di tutto e di tutti del nostro movimento. Chi è che è stato cattivo con lui? Chi è che si è comportato male con lui all'interno di Scelta Civica? Ma le persone, io non lo so chi siano. I Montezemoliani un po'. Ma no, ma io non credo che siano negli uni e negli altri. Il problema è che c'è stato qualcuno che ha fatto passare un po' i mal di pancia suoi un po' come questioni. Poi naturalmente si è anche un po' gonfiato, giustamente i giornalisti devono fare il loro mestiere, io li apprezzo. Perché lo fanno, un po' di gossip sono balle, un po' di cose sono reali, perché attenzione, comunque è chiaro che il malumore c'è sempre, perché quando si inizia un percorso così difficile come quello attuale, senza sapere dove si va a parare, insomma, l'ansia è tanta. E sono nate queste cose. Però mi sembra un po' a fine corsa. Cioè dopo direi proprio di no. Dopo il semifallimento delle elezioni, questa vicenda del Senato, insomma non, le cose non stanno molto bene. Io non la vedo così, e posso dirvi che l'ho visto molto più determinato in questi giorni che in altri momenti, nel senso che comunque sa perfettamente la coscienza a posto e sa anche che comunque le questioni sono in parte sulle sue spalle. Lo vedrebbe bene al Quirinale in questo momento, oppure è una partita chiusa? Guardi, io non credo che la partita del Quirinale lo interessi. Non gli interessa il Quirinale? Non è una partita non farà il Presidente della Repubblica. Non è, diciamo, l'aspirazione che secondo lei a chi dà l'incarico domani Napolitano, secondo lei? E la domanda che oggi ho sentito più frequentemente rivolgersi tra i senatori, il Toto Senato diceva Grasso, ma sarà perché eravamo influenzati per lei, però, per lei, avendocelo davanti. Secondo ma lei. Io non lo so, sinceramente non lo so. L'idea mia è che il presidente ci stupirà, cioè che ancora una volta tirerà fuori un nome né Grasso né Schifani. Né Grasso né Schifani. Secondo me no. Può essere, può essere. Intanto c'è una dichiarazione incredibile di Staffan de Mistura. Signori miei, io vi faccio un appello. Andate all'aeroporto, impedite la partenza dei Marò. Caro Parenzo, dobbiamo fare questo appello. Impedire... No, ma non c'è dubbio. Tra l'altro la baracconata di come hanno gestito no, questa roba... No, ma de Mistura, il sottosegretario agli esteri, lo sai che sì, cosa sì, ha detto? Lo so. Ma lo sai cosa ha detto? Tu non hai idea di cosa ha detto? Abbiamo assicurazioni dall'India che non ci sarà la pena di morte. No, ma ti credo. Cioè, ci saranno roba... assicurazioni dall'India che non c'è la pena di morte. No, adesso, ma la cosa grave... Magari ha ragione Olivero e ci sono accordi, per carità, noi facciamo un altro mestiere qui. Però sì, io non conosco le vicende. No, il problema è un altro, questa dichiarazione. Ipotesi certo, questa dichiarazione di Mistura è incredibile. Che voleva essere l'assicurante, in realtà è una follia anche solo dirlo. È una follia, no? Come si fa a dire abbiamo assicurazioni dall'India che non ci sarà la pena di morte? Né la tortura né gli elettrodi. Ho capito, magari l'ergastolo va bene invece. Dai, su. Però il dramma è che qualche giorno fa, nel silenzio totale, l'India aveva addirittura bloccato il nostro ambasciatore, che era lì una sorta di sequestro di ambasciatore che non poteva muoversi dall'India. Vabbè, come che vuol dire? L'ambasciatore italiano in India era stato bloccato, non poteva partire. Sì, lo so. Senta, Olivero, lei che è molto cattolico, le posso fare... L'altro giorno a Porta a Porta Ferrara ha detto che la pedofilia nei numeri è esagerata per quello che riguarda la Chiesa. Lei condivide? Ma io non ho nessun motivo per... andare in un senso o nell'altro, però quello che so di certo è che se anche i numeri non fossero elevati rimane ugualmente un problema serissimo, quindi non si può dire come fa Ferrara che è una questione esagerata dalla propaganda contro il Vaticano, quello lui dice, c'è una... Parliamoci chiaro, e se anche così fosse, nel senso che mi dica se lo pensa. Ma no, non lo penso. Cioè, penso che certamente in certe circostanze qualcuno che c'era la Chiesa l'ha anche amplificato, ma che importa? Cioè, quando c'è un problema è legittima anche l'amplificazione. Con chi è che... No, ma certo, è chiaro. Per cui nei numeri il problema c'è, esiste, molto serio, anche nei numeri, voglio dire. Se non fosse stato serio, voglio dire, non avrebbe Benedetto XVI detto e fatto le cose che ha fatto negli anni passati. Voglio dire, non è che i papi normalmente sulle questioni di questa natura si spendono direttamente. Lui ha ritenuto che fosse una questione. Ma perché Ferrara se ne esce in questo modo, secondo lei? Ma perché sono i laici, come si diceva, i laici, i devoti? Sì, ma perché c'è questa sindrome d'accerchiamento. Attenzione, è vero che c'è una polemica anticattolica, no? Intendiamoci, ogni tanto qualche rigurgito laicista c'è, però secondo me la sindrome d'accerchiamento è la cosa peggiore che esista, nel senso che se c'è una cosa che i cattolici devono ricercare, mi pare che Papa Francesco l'abbia immediatamente messa in campo, è una umana simpatia, perché soltanto in quella maniera per cui, è una cosa di Ferrara che è più realista dei cosi, più fedele alla Chiesa magari di quelli dei cattolici veri? Beh, diciamo che per molti versi religione senza la fede tende più a estremizzare questi elementi, cioè essere ancora più rigidi. Senta, mi dica una cosa, qual è il governo ideale per Scelta Civica che lei rappresenta in questo caso oggi? Come... Ma guardi, non è tanto un governo, cioè PD, PDL, a parte che lei aveva detto che mai avrebbe governato col PDL, che non preferiva votare il PDL, ma siamo ormai in un altro mondo. No, ma siamo, attenzione, io sto dicendo, è proprio questo il punto, secondo me non è tanto con le forze politiche, quanto con quelle parti dei partiti politici che hanno connotati riformisti. Noi siamo nati con quell'idea. Vabbè, allora PD, PDL, lista Monti guidato da il vostro ideale, PD, lei è andato da Napolitano, vabbè, lei ha detto, gli ha fatto un nome o no? Io sono andato alle elezioni candidato Mario Monti, quindi se lei mi chiede quello ideale io... Ma no, ma ideale, quello possibile. Quello possibile, guardi, lo lasciamo scegliere a Napolitano, ma io veramente... Non, in questa fase non saprei farlo, per questo che Grillo appunto, è come sono un semplice senatore mentre lui è il presidente. Ma ecco. Grillo è come Scientology, secondo lei, come sostiene Parenzo? Grillo è un personaggio estremamente intelligente che però presenta degli elementi nel suo movimento un po' inquietanti. Questo è vero, ma inquietanti non perché ci sia appunto una modalità di mistificazione, però perché secondo me ha dei tratti un po' autoritari, ecco, questo è l'aspetto che mi però preoccupa. Voi dovete fare, una volta lei me lo disse, dovevamo un po' fare come Grillo, cioè dovevamo trasformare la lista civica in una sorta di Grillo di lista moderata, sì, No, dovevamo essere molto più marcatamente antisistema, questo sì, perché in realtà senza fine e casini, senza fine e casini, allora vabbè, questo è un aspetto, ma anche proprio da un punto di vista artistico, anche giocando la stessa figura di Mario Monti per molti versi abbiamo noi l'abbiamo un po' normalizzato, perché Mario Monti è molto lontano dalla politica tradizionale e dunque abbiamo cercato un po' di assimilarlo al resto e non funziona così, perché invece lui è dovevamo trasformare Monti diverso. bisognava che Monti facesse il Grillo senza fine e casini, giusto? No, beh, facesse il Grillo forse non l'avrebbe fatto di sua natura, diciamo, però doveva essere più marcato quello che era il suo tratto, la sua originalità, il suo non essere un politico per molti versi, e invece... che non vuol dire essere antipolitico. E avere come alleati Fini e Casini vi ha indebolito moltissimo. Beh, da questo punto di vista, nell'immagine esterna, sì, nei contenuti non è stato questo il problema. Vabbè, insomma, però nei contenuti forse siamo stati anche noi non capaci di trasmettere a sufficienza. Però era meglio non imbarcarli. Era meglio non imbarcarli. Sta cercando in tutti i modi di farmelo dire, ma... Beh, lo so perché so che lo però, pensa. Ma non è così, guardi, io non giudico questi partiti in maniera così. Ma no, i partiti, ma anche l'immagine. Nel senso che all'interno, sì, l'immagine, se giochiamo sull'immagine non c'è dubbio, ma se guardiamo invece alle singole persone, alle forze, ai diversi territori, è così. Però ecco, l'immagine era quella che era, vabbè. Beh, l'immagine lo sappiamo, d'altra parte i cittadini da questo punto di vista hanno dato il loro verdetto nel voto. Però ribadisco, tanto noi adesso li ha puniti nel voto. Abbiamo iniziato un percorso politico. Senti, Olivero, io sono curioso di una cosa, Parenzo. Olivero, nonostante il fatto che sembri una persona molto seria, ha 43 anni, cioè più giovane di me, forse anche no, di te no, perché ne hai 37. Esatto. Però voglio chiedere, nella sua vita, 43, lei una canna una volta se l'è fatta? Una. Ma io frequentavo le parrocchie, terribili. Negli scout? No, non si fanno queste cose, in quei mondi lì non si fanno. Non si fa nulla? È così. No, si beveva un po' di più, ecco, questo era il tipico modo. L'unico vizio che uno può fare. L'unico vizio. Quello sì, d'altra parte sono di Cuneo, l'avete ricordato. Quindi... Non mi dica che è arrivato vergine al matrimonio lei, senatore Olivero. Questo non ci posso credere. Questo non ci credo. Vabbè, adesso qua si sta andando troppo avanti. Non è qui possibile. Bisogna... Vabbè, qui è un sì o un no, poi chiudiamo. È arrivato vergine al matrimonio, non ci credo. Sì, e qui bisogna dire di no, però vabbè, che ci vogliamo. Vabbè, ma adesso mica sarà una cosa, mica sarà un peccato. No, ma io, se lei mi avesse detto di sì, no, se mi avesse detto di sì, avrei preso. No, io tendenzialmente... ritengo la vita privata una parte so. A sé stante, però... qui mi fermo grazie, buona serata senatore, grazie, buona serata. Ennio da Brescia, 800 24 00 24. Ennio, dica. Buonasera, vada per la trasmissione, desidero appoggiare il colloquio che avete avuto con Paolo Vanoli. Beh, grande Paolo Vanoli, il mio mito assoluto è diventato questa sera. Esatto. Caro Parenzo, mi dispiace per te, è diventato il mio mito assoluto. Esatto. Non riuscirò neanche a bere un bicchiere d'aranciata stasera. Sì, ma il signor Parenzo non deve essere più prudente nell'esprimere delle sentenze prudente. Se non sa gli argomenti. No, lei, signor Parenzo, non sa che il Milan... utilizza nei suoi spogliatoi per la sua medicina, eccetera, l'urina. Medicina non convenzionale. Ma che c'entra la medicina non convenzionale con l'urinoterapia? E fa parte di tutto un mondo. Un attimo. Pronto? Anna Rea, allora? E allora che ne dici? Che hai fatto fino adesso col cane? Che hai fatto col cane? Lo posso in ammazzo, lo sto di là. Che ha fatto il cane? Scusa, non è. E che ha fatto il cane? Che la sera lo devo dormire sulla panza mia e poi lo metto di là. E vabbè, che qual è il problema? E poi l'animaccia tua se risveglia e mi sta abbagliando. E vabbè, te l'hanno regalato, adesso te lo tieni sto cane. Ma chi è il cane di Monti? Poi ci voglio bene, piccoletto, è tanto carino. È bassino, no? Sì. È bassino, insomma. No? Ma ci vanno tutti bene lì a Montecitorio. Ah, ma chi te l'ha dato? Il nanetto è ben da Roma. Chi? Il nanetto tuo. Chi è il nanetto? Qua, ecco, come si chiama? Berlusconi. Parenzo. Ma prendi le parolacce, che mi dia, si mi sente toccavo lì mia. Ma chi è? Brunetta, chi è? Sì, Brunetta. Oh, voi siete i miei figli e poi vengono pure i cavalletti. Perché, dici? Perché dal grillo poi ci stanno i cavalletti, no? Ma comunque la realtà è questa, Andare. Bersani non governerà. Bersani non governerà. Oh, state zitto lì, Gera, piccolo, che poi se ne molla fuori. Aspetta un attimo che chiamo una persona adesso, aspetta. Chiamo un attimo. Un po'? No, no, che chiamo? Aspetta, no, no, devo chiamare un'altra persona. Sì, stai lì, Annarella. Stai... Ah, ma disgraziato, ti sento, sa. Tanto non lo fa il governo, il tuo amico Bersani, non lo fa... Senti un po', ma che rete ha tua? Radio 24? Sì, sì. Beh, certo. No, perché mi ha chiamato il mio figlio, dice che hanno telefonato il teso tua madre. Eh beh, certo, Radio 24, alla Zanzara. Io sapevo Radio 2, Radio 24, mi sbaglio sempre. Vabbè, ma lascia perdere Radio 2, che c'entra Radio allora, 2? Allora, dimmi. Lascia perdere Radio 2. Ma io voglio capire una cosa, Andrea, domani vai a Montecitorio o no? No, ci stanno i scioperi. Ah, oggi mi hanno fatto le fotografie due sindaci, uno da Sardegna e uno dall'Umbria. Si sono levati la fascia e mi hanno messo a me la fascia. Comunque anche sui Marò siamo dei peracottari, hai visto sui Marò sì. che tornano in India, una cosa pazzesca. Va bene, ma senti, qua se devono decidere che hanno da fare la minaccia di loro, quei ragazzi stavano là all'atto internazionale, ma sì, sì, loro ammazza, Antonio, Antonio. Ehi, sono Cruciani, ciao. Mannaggia la puttana, ma dove vuoi chiami? Dopo un altro io non ti riesco mai a sentire. Lo so, che te do, non riesci mai a sentire. Ma hai capito, io è successa una cosa pazzesca, ma, i Marò. Ma come ti sei disturbato? I Marò, mai sentito i Marò? Oh. I Marò, che cosa sta... I Marò sono tornati... esci fuori un attimo. Chi è che parla? Sono Cruciani. E Parenzo. Ma va a farli, Cruciani, ma io ce l'ho fatto... Sto picciato, sto chiudendo il libro. Lo so, scusami, hai ragione, hai ragione, però la notizia era urgentissima. I Marò tornano in India. Niente, non ti sento proprio, faccio fatica a sentirti. Aspetta, esci un attimo, esci un secondo, Antonio. Io sono uscito da casa, ma fuori. Allora, ma non ti sento proprio. I Marò tornano in India, il governo li rimanda in Italia e in India. L'hai sentita sta notizia che i Marò tornano in India, sì o no? No, non l'ho sentito. Oggi. Il governo ha deciso di rimandare i Marò in India. Che cazzo da gente, ma io non lo so. Ma perché non restano un po' di indiani nostri qua? Ho capito, ma la cosa è incredibile che prima il governo li aveva fatti rimanere in Italia. Non ti sento. Prima il governo aveva detto, dai il numero di casa un attimo che ti richiamiamo. Qual è il numero di casa tuo? No, c'è in casa, amore. Dove stai? Vabbè, chiamala il numero di casa, però fate una cosa veloce. Sì, veloce, tanto veloce, ti richiamo subito. Annarella, ci sei o no? Annarella. Ma chi è questo? È Pennacchi, lo scrittore. Premio Strega. Premio Strega, lo conosci? È comunista come te, eh? Lo so, è che boh. A me piacciono tutti quelli rossi. Ho capito. Devi pensare una cosa, mio nonno era rosso, mio padre era rosso. Sì. E noi siamo nati rossi e che boh, siamo sempre rossi. Ho capito, ma non è, uno a un certo punto finisce, no? Non è che può votare sempre... No, lascia perdere. Oh, non è che puoi votare sempre la stessa cosa. Allora, Pennacchi... ecco qui. Allora, parla forte, però non te se sei. Ciao Antonio. Urlavo come un pazzo. E non mi pare. Vabbè, allora, ma ti rendi conto io che io sto lavorando, sto in chiusura del romanzo. Non leggo giornali, non vendo hai non ragione. Vedo niente, sto con l'universo mio. Io sto a scrivere, non mi rompete le palle a me, che vuoi? Lei ha ragione, hai ragione perfettamente. Però la notizia valeva la pena che tu ci mandassi a fare in culo. I due Marò tornano in India, secondo Il governo italiano. Perché? E non lo so, hanno trovato un accordo, tornano in India. Ah, l'accordo è che quelli tornano in India? Sì, sì. Ma questo si chiama accordo di Maria Cazzetta a casa mia. Ho capito, ma questo è il governo Monti, capito? Il governo perché Monti. Perché c'è Monti a posto di quelli in India? Perché non si consegna lui? Bravo, bravo. Questi mica stavano lì su quella nave... Perché sono andati in escursione privata per conto loro, no? Certo, per il governo. Cioè, sono andati per conto del governo italiano? Sì, sì. Quindi hanno eseguito gli ordini? Sì, sì. Il Monti ci vuole mandare qualcuno? Sì. E sono andato a fanculo lui in India, no? Ma che c'entrano i due Marò? No, tra l'altro, scusami, la cosa incredibile è che il ministro degli esteri, 10 giorni fa, nemmeno 10 giorni fa, Pennacchi, aveva detto, quando lo sai che erano stati... No, non so niente, arriva il proprio... Vabbè, erano rimasti, hai ragione, erano rimasti qui in Italia, no, l'avevamo riportati, questo lo sai, no, l'avevamo riportati in Italia. Aveva detto la nostra posizione è solidissima e adesso invece tornano in India. Tra l'altro il sottosegretario, lo sai che dice? Dice, abbiamo avuto l'assicurazione dall'India che non ci sarà la pena di morte. Ma ti rendi conto? L'assicurazione che non ci sarà la pena di morte. Ma questi sono scemi davvero. Ma perché non gli arrestano tutti gli indiani che ci stanno in Italia? Ma no, tutti gli indiani in Italia arrestati. Ma gli arrestassero un po' degli italiani che ci stanno in Italia. Questa però... Gli italiani che ci stanno in Italia. Quelli stavano nell'acqua internazionale. Ma aspetti, non mi rompete i coglioni. Ma facessero come gli pare. Ci andassero il ministro degli esteri, il ministro della difesa, ci andassero loro in India, no? In prigione? Andassero a fanculo dove gli pare. Non mi rompete, andate a fanculo pure voi. Ma che mi importa a me? No, non lo faccio. Però scusa, c'è un'altra cosa. No, dai. Madonna. Ho capito, ma qui la cosa, i due Marò tornano in India, la notizia che vai all'aeroporto. Vai all'aeroporto a bloccare la cosa. Io andrei all'aeroporto. Guarda, no, veramente non sto scherzando. Andate all'aeroporto a fermare la partenza. È una cosa gravissima. Io dico, è roba da matti. Pennacchi? Se n'è andato, che ha fatto? Annarella? Oh. Ma che sta di sto scemo? Ha detto che bisogna fare un po' di sequestri di indiani in Italia. Mamma mia. Non mica sbaglia, sa. Lo so che tu eri d'accordo su questo. Ho capito, però... Hai mangiato, Andrella? Mi vanno giù. Che hai mangiato stasera? Allora, oggi mi sono fatta la trippa. La trippa stasera? Col pecorino. Ma è pesante, Annarella. Ah, sì, è pesante, adesso è scemo. Ma quanti anni hai? 87, tu? Beh, 87 anni la trippa con pecorino, alla sera. Buonissimo. E te? Io non ne mangio poca, sa. Che hai mangiato poi? Trippa con pecorino e poi? No, che ci metti? Quando fa la pasta ci metti il formaggio, e sulla trippa c'è il pecorino. Il pecorino, io una volta. Ma poi voi altri sapete mangiarli su. Io sì, hai ragione. Io prima o poi devo venire a casa tua, però. Allora... Faccio i bucatini alla matriciana. Ma ce l'hai poi da mangiare, sì. Oh, è bello! Eppure per me. Sono casa piena, sa. No, ho capito, che magari, che ne so. Cioè... Comunque. La pensione c'ha, Annarella, scusa. Quanto prendi di pensione, Andare? Ma no, che cosa te, a pari mia. Certo. Beh, me coglioni, tu mi dici tua. Sì, io te lo dico, vabbè, io te lo dico, no, non te lo dico, è meglio... Diglielo, no. Abbi coraggio, diglielo. Al Bassetto, quando lì a Roma, ho visto lunedì... Ma lui sta sempre a Roma, al Bassetto, Parenzo, il nano. Ma sopra, l'altro ieri è venuto lunedì. Sì, è venuto a girare delle immagini là davanti, vi siete abbracciati, ho visto, una cosa incredibile. Sì, certo. Ma l'hai beccato qualche grillino in giro o no? Ah, voglia, stamattina ne ho trovate tre. Che gli hai detto? Tre grille e due grilli. Che... E sono morivano pure le cavallette. Siete tutti scarponi, sapete fa manco col bicchiere, ma che n'ha da farla? Ma c'è stata rovinata, inteso che loro non vogliono quello, vogliono comanda loro, se non vengono al piano A, vogliono quello B, vogliono le mettere la televisione sola e le va tutto, vogliono farli comandare, ma chi sono? Ma io se ero col Presidente della Repubblica, a Grillo o piamo con una mazza d'andata, poi c'è quelli che giocano con la mazza là in America, c'ha da un testa, forse, vado al Presidente e c'è la gomma americana, ma ti rendi conto che siamo a pari di polli? Ma scusa, ma che ne sai che Grillo c'aveva la gomma americana in bocca? C'aveva in bocca! Ma che ne sai? Ma perché? Ma è scappato! L'hai visto così? L'hai visto? Cioè, quando l'hai visto che c'era la gomma americana in bocca con Napolitano? Stamattina. Ah, quando è entrato lì. Quando è entrato lì. La gomma americana. Sto deficiente. Ho capito. Oggi si è messa la cravatta. Visto? Si è messa la cravatta. Si è messa la cravatta, sì, si è messa la cravatta. Vabbè. Oggi si è messa la cravatta, lo sciallo nero. Si è chiesto scusa. Fino a ieri sera gliene ha detto queste corna a quel poraccio. Deve avere solamente rispetto, che è vecchio come me, c'è la mia Napolitano, sì, eccetera. Ma tu hai la stessa età, no? Berlusconi, diciamo. Io ce l'avevo pure con quelli del Papa che se n'è nato e ha fatto dannarsene. Comunque, alla fine, ultimamente vanno d'accordo Napolitano e Grillo. Grillo gliene ha detto di tutti i colori. Che figli. A Giuseppe. Che gli doveva fa Napolitano? Ti sei mangiati così per San Giuseppe? No, non l'ho mangiato, non ho mangiato niente, guarda, stavo da solo. Ma da solo. Ma disgraziato. Senti, stamattina ti hanno difetto tutti i sindaci. Allora, l'hai visto? No, non ho visto niente per adesso. Non ho visto niente. Come? Ma le fate le fotografie con la faccia da sindaco? Ho capito, non ho visto. Annarella, sindaco d'Italia. Annarella, comunque io... Perché sta di soffregnetto lì dietro? Comunque prima o poi io ti devo mettere un microfono... Lo sai che devo fare io? Ti devo mettere un microfono addosso, lo sai che devo fare? Ti devo mettere un microfono addosso, tu vai a rompere i coglioni a tutti, a tutti dal primo all'ultimo. Però devi rincorrere bene questi del PDL, da un po' di tempo che non ci fai vedere qualcosa di serio, che vai dietro a Brunetta, che rompi i coglioni a quello e quell'altro. Oddio, zitta da Brunetta. Perché? Che è successo con Brunetta? È diventato capogruppo? Mo quando che mo bella che se incontriamo sempre che me scende con la macchina dietro a me. Sì. E io sto lì davanti, sì. E come io mi giro la capoccia e vedo Brunetta, ma lì mortacci, ma ancora non ti ammazza nessuno, gli ho detto. Comunque allora che ha fatto? Ha chiamato l'autista, dove era uscito da sotto, dalla parte di là, del Parlamento. Sì. Pensa un po', per farsi mettere da me. Guarda, è una cosa assurda. Ne fanno crepare da ride, che poi... pensa a noi quanto ci fanno... Non mai per noi, perché la becca muove, vieni un po' qua, ha disgraziato, ecco che gli dico. Abbraccio. Ciao. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Aridateci Capezzone, aridateci Capezzone. Caro Parenzo. Ma certo, il Capezzone c'è comunque. No, ma lo dico riprendendo, mica perché ce l'ho con Capezzone, riprendendo quello che scrive da Cospia questa sera sul Gaffer di professione, signor Crimi, Vito Crimi. Facciamo una galleria del signor Crimi. Partiamo da qui, intervista di Radio Ruiz per La Zanzara. Siamo meno organizzati di quanto sembra. Grillo. Cioè, l'ho appena visto. Dopo tre settimane che non lo vedevo. Ah, addirittura così tanto tempo. Non c'è. Come fate a coordinarvi? Cioè, come, anche mettiamola, facciamo che non è politica, facciamo che è un'azienda, cioè. Sono due aspetti di. Allora, come fate? Cioè, voi siete come il discorso che avete votato grasso? Siamo molto meno organizzati di come sempre. Infatti anche noi spesso ci chiediamo come ci siamo arrivati. Perché è molto no, ma perché è incredibile. Perché ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati solo perché la forza delle idee, credimi, non perché siamo organizzati. Si ci me gusta mustica, tu n'aimeras pas. Casaleggio dietro tutto? Minchiate. C'è qualche fantapolitico che dice: ah, c'è dietro Casaleggio, poteri, cose. Io Casaleggio lo sento, sì e no, due o tre volte in una settimana, ma credimi, solo per questioni di comunicazione, del tipo, la mattina ti chiama e ti dice: guarda, ma ieri sera avete fatto questa cosa, secondo me l'avreste potuto fare meglio. Fai il video. Oggi fate questo, perché non fate il video a fine della manda? Sì, per la trasparenza. Cioè, capito, questo tipo di... Ma poi adesso... Beh, poi la frase clou è: i giornalisti mi stanno sul cazzo, cercano solo gossip. Rispetto alle TV e ai giornalisti, guarda che veramente li sto reclutando tutti, guarda, perché... E infatti noi non siamo... Veramente sul cazzo, guarda, i giornalisti è una roba... Ma perché purtroppo è sempre il discorso di cercare lo scoop e basta. Sì, il gossip... Non mi molesta il moschito, non mi molesta. Oggi lo stesso Crimi dice... Ritorna chez toi. Anzi, chiede con Grillo la guida del governo. Lo stesso che dice che i giornalisti gli stanno sul cazzo. Grande rispetto per le istituzioni, però non per le persone che ci sono dentro. È una delle prime cose che abbiamo detto quando siamo entrati: per le istituzioni il rispetto è immenso, non per le persone che le hanno frequentato, quello veramente zero rispetto, non lo merita. E vedere nell'aula, vedere certi personaggi, girare lì, vedere Formigoni, vedere ancora Scilipoti, gente che ti ha detto di aver preso 2 milioni di euro, dove sono di essere stata pagata, gente condannata. Oggi è uscito un articolo sul Fatto Quotidiano, 46 sono i condannati, che sono lì, sono 46. Che poi tra l'altro non è vero, non è vero qui, caro Parenzo, si informassero anche meglio, perché leggono il Fatto Quotidiano e prendono tutto per oro colato. Peraltro sul Fatto Quotidiano non c'era affatto scritto che c'erano 46 condannati, c'erano 3 condannati definitivi e altri indagati. Hanno letto male il paginone, diciamo. Ma è una roba incredibile, 46 condannati, ma quale 46 condannati? Non è vero. E poi Altra frase clou: non facciamo un cazzo da un mese e mezzo. Che questo è vero. Noi, questo qua è un vuoto normativo fino pazzesco. Adesso non abbiamo fatto un cazzo. Abbiamo solo votato scegliere cariche. Lunedì si individuano le commissioni, poi le commissioni vengono convocate dopo 2 settimane, scelgono i presidenti, che non è finita, convocano per scegliere i presidenti, i quali poi convocano le commissioni. Certo. Cioè passiamo un mese e mezzo a non fare un cazzo con uno stipendio quello che è, lasciando il paese in un momento in cui è in particolare questo è il Parlamento difficoltà. Che non va, ed è il problema è il governo, il problema è il Parlamento, il governo. Il problema è il Parlamento, il governo. Il problema è il Parlamento, il governo. Il problema è il Parlamento. Marco da Udine, 800 24 00 24. Marco, dica. Ciao, buonasera a tutti. Che cazzo dobbiamo ancora stare dietro a Saxore dei Marò? Sono andati in India, hanno ucciso dei pescatori che vengano giudicati in India. Perché dobbiamo stare qua a... Parte che, come lei sa, come lei sa, c'è una controversia su questo, le acque internazionali, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, guardi, no, che non, io non sono del tutto contrario a quello che dice lei. Cioè, lei dice c'è troppo nazionalismo intorno a questa cosa dei Marocchi. Ma no, ma ci hanno rotto le balle con queste cose. Cioè, a parte che io ricordi di università, cioè, quando ci sono qualcosa di contenziosi internazionali, vale sempre il principio di reciprocità. Io immagino che se arrivano due indiani qua su una nave nelle acque nostre e uccidono dei pescatori nostri, ce li teniamo noi, li giudichiamo noi, non li rimandiamo in India a farsi giudicare. Beh, questo è da considerare pure, Parenzo. Ma poi noi andiamo in India, facciamo commercio, vendiamo elicotteri, cioè per cui all'India a noi ci va bene come controparte, per commercio, eccetera, però quando si parla di giudici non ci va più bene. Ah, non so, mandiamo qualcuno dell'ambasciata, del consolato a vedere che il processo sia regolare, eccetera, ma che si facciano giudicare lì. Non ho capito perché. Quanto ci è costata tutta questa cosa? Non erano lì per una gita turistica di un club 4 stelle. Erano in missione per conto del governo italiano, come è stato ricordato. Sì. Allora, non è che quello che hanno fatto nelle acque internazionali l'hanno fatto perché gli sono girati 5 minuti. Ho capito, hanno ammazzato dei pescatori, cioè non hanno fatto una lite in un bar. Ma intanto però Marco, la dinamica di quell'incidente è stata anche spiegata perché c'è stata un'inchiesta, c'è stata anche un'inchiesta italiana. A me va bene, però cioè, hanno ammazzato. Però Marco dice una cosa, non dice una cosa così folle. Folle sì, invece. No, non sta affatto dicendo una cosa folle, perché allora dovremmo nei confronti noi abbiamo sempre protestato per anni, abbiamo protestato per gli Stati Uniti che si sono tenuti i propri militari per il CERMIS e per altre cose, e mo adesso sostanzialmente vorremmo fare come loro, cioè come la vicenda è un po' diversa, perché noi rispetto alla giurisprudenza, al sistema di funzionamento del americano abbiamo diciamo dei pesi per poterlo giudicare. Quello indiano è un po' diverso, ma non c'è solo questo, c'è il fatto che ogni paese tutela i propri uomini, cioè alla base di questo principio. Ho capito, però non dobbiamo protestare quando lo fanno gli americani, io lo sostengo questa cosa qua. Io, quando lo fanno gli americani, poi dobbiamo stare zitti. Cioè, quando gli americani si prendono i loro militari e li giudicano secondo il loro ordinamento e come e quando vogliono loro, anche autori di crimini evidenti come nel caso del CERMIS o di altre storie, allora dobbiamo stare zitti. Fanno bene, dobbiamo dire fanno bene. Sì, ma poi spesso scontano la pena nel loro paese, questo è quello che succede. Cioè, gli americani scontano la pena. No, ma lascia perdere che scontano, vengono giudicati e scontano la pena nel loro paese, sì, ma questo infatti non è escluso che possano scontare la pena nel nostro però paese. Però la vicenda con l'India è un po' diversa. Comunque qui c'è un accordo, pare ci sia un accordo, poi vedremo. Come l'ha spiegato all'inizio di Mistura, non è granché questo accordo. Cioè, l'accordo prevede che non ci sia la pena di morte. Beh, insomma, voglio sperare. Luigi da Latina, grazie Marco. Luigi. Sì, ciao, buonasera. Dica. Ma io mi sono vergognato quando ho sentito la notizia che gli italiani non li facevano rientrare in India, perché non è proprio questo l'atteggiamento che si deve ottenere. Mi sono sentito come quando nel dopoguerra il nostro re è scappato e tutta l'Europa ci ha riso dietro. Non è così che si fanno le cose, se si prende una parola va. Ma la parola avanti. Con chi, dice lei, con chi? Il governo italiano con quell'indiano. Ha preso la parola che dopo le votazioni però sarebbero rientrati, sì, quando sì. Stanno qua in Italia a un certo punto dovevano rimanere fin dall'inizio in India, secondo lei? Allora, o fai come gli americani, che appena succede la cosa te li porti via e poi giudichi l'Italia, oppure non fai la figuraccia che dai la parola come Stato italiano che glieli fai rientrare e dopo dici no, adesso non rientrano più, perché tutto lo Stato italiano che poi viene preso per culo in tutto il mondo. Ma lei ha ragione su questo, lei ha perfettamente ragione. Tra l'altro filtrano alcune indiscrezioni, potrebbe anche darsi che caro Parenzo, che magari erano pronte delle misure ritorsive dell'India che nessuno si aspettava. Dal punto di vista, cioè, come dire, degli accordi commerciali, non è una trattativa eccetera. Normale, qui è come se stessero arrestando degli uomini dello Stato italiano, perché erano lì per noi, non erano in gita. Cioè, diverso è l'atteggiamento di quando sono un gruppo di turisti, ho capito, che privatamente commettono un crimine. Ho capito, ma che cosa non ho capito tu che posizione hai, però. Non ho capito, no, se... È vergognoso il fatto che il governo italiano abbia fatto questo accordo per riportarli di nuovo lì, sapendo bene quali sono le condizioni della giustizia indiana. Vabbè, ma non è terzo mondo, eh. Cioè, non... Gianluca da Bologna, buonasera. Gianluca! Sì, buonasera. Andiamo. Cruciani. Vada. Cruciani? Sì. Buonasera Cruciani. Io sulla questione dei Marò sono veramente, veramente molto indignato. Sì. Le devo dire la verità, è una cosa che secondo me facciamo veramente la più brutta figura storica di diplomazia del nostro governo italiano. Beh, su questo non c'è dubbio, una delle figuracce più clamorose degli ultimi anni. Un'altra cosa fondamentalmente, io vi avevo chiamato perché voi stasera veramente avete trovato un idolo. Sì. E lei, Cruciani, è veramente un idolo anche mio, perché questo Giampaolo Vanoli è fantastico. Eh beh. E il signor Parenzo, che è sempre pungente anche con la sua cosa di mettere le telecamerine nel sedere di Grillo, con Casaleggio che mette la telecamerina nel sedere di Grillo, dovrebbe fare da spalla questo signor Vanoli, dovrebbe fare come a Masterchef, cioè questo dice voglio mangiare, voglio fare il coprofago, perfetto, allora il signor Parenzo deve dare la ricetta per questa cosa, deve fare una tisana per la bibì. Ma è tutto trasparente, no Parenzo, Parenzo, è tutto trasparente. Deve essere tutto messo in rete. Sono andato da Giorgia Napolitano, gli ho messo una telecamerina dentro l'orecchio, dentro la pelata. Si deve vedere tutto, tutto, porca puttana. Non ha più senso defecare. Non serve, in Germania lo fanno. C'è una piccola cannetta che tu ti metti, assorbe tutto. Una volta al mese svuoti, così non tiri l'acqua, non inquini. Lo fanno dappertutto. Ma com'è andata con Napolitano oggi? Com'è andata? Si è addormentato, gli stavo parlando, si è addormentato, c'è questa porta sempre chiusa, quei militari lì davanti alla porta che non si capisce che cazzo fanno, non serve a nulla, a niente, tutto finito, tutto morto, rituali passati. Beh, ho capito, però è andato lì con la giacca e la cravatta, dottor Grillo. Ma quale giacca? Ma per forza, perché altrimenti dicevano che ero un maleducato, ma non me ne frega un cazzo, sono andato lì, poi me ne sono andato perché mi sono rotto le balle. È rimasto pochi minuti, poi ha lasciato gli altri che tanto non contano. È rimasto a parlare da solo, era lì che parlava da solo, diceva le sue cose sul governo di larghe intese. Ma quale larghe intese? Ma non ce ne frega niente, avete capito o no? Ho messo tutto nella rete, tutto in internet, ho aperto un blog, porca puttana. Che stai facendo lì che cade sempre la linea? No, mi è caduto, sai che quando cade il BlackBerry per terra. Segreteria telefonica. Vabbè. Poi ci mette un po' a ricaricare. Gianni, provincia di Milano, buonasera Gianni. Sì, io ero in India quando Terzi ha detto che i Marò non tornavano più in Italia. Sì, in India. Sono Terzi di Sant'Agata. Avendo visto che cosa hanno scritto i giornali indiani, i telegiornali e così via, mi sembrava evidente che l'unica soluzione fossero che ce li rimandassero. Cioè, erano scatenati contro di noi? Ma scatenati, titoli a quattro colonne. Ai telegiornali i servizi principali erano sempre sulla inadempienza dell'Italia, l'inaffidabilità diplomatica dell'Italia. Sì. E c'era scatenata anche l'opposizione contro il congresso, il partito di Indira Gandhi, dicendo che il governo centrale aveva fatto un accordo segreto con... Un attimo solo, Gianni. Mi era rimasta una cosa qua da ieri... Volevo chiarire una questione, vediamo un po'. Con chi? Non si può dire. Si nega però. Beh, si nega, sì. Oggi si nega, sì. Molto grave. No, non è grave, è normale. Molto grave. Poi si nega, non risponde al telefono. È una molto cosa grave. Gravissima. È una cosa di una gravità inaudita. Ma guarda, è molto grave, guarda. Gianni, allora? Niente, dicevo, il partito in giornata vabbè, erano scatenati contro di noi. Lei scatenati aveva... contro di noi, ma tra l'altro con l'opposizione che la sfruttava tutti gli argomenti per il discorso degli elicotteri di Finmeccanica, cioè minacciando, chiedendo al governo di bloccare tutte le importazioni dall'Italia e di impedire l'ingresso dei cittadini italiani. Tra l'altro noi dovevamo uscire, avevamo un po' di preoccupazione quando siamo arrivati al controllo passaporti, ce l'abbiamo pure avuta. Dunque per lei era tutto prevedibile, grazie. Lino, secondo me era tutto prevedibile, non poteva finire che così. Lino da Matera, buonasera. Lino. No, niente, io volevo dire che i politici italiani sono la merda, vicino a loro è niente, perché non assumono mai una posizione ben precisa. Beh, lei è abbastanza tranchant su questa cosa. Dunque, i politici italiani sono una merda, che sono? Sì, vicino alla merda sono niente. Perché vicino alla merda assumono... sono niente, no, non avevo capito bene lui questo passaggio. Perché non assumono mai una posizione ben precisa, cioè se si tratta di difendere gli italiani all'estero è zero più assoluto. L'abbiamo visto con gli aerei degli americani, l'abbiamo visto con quel battello che affondò gli albanesi, misero un'inchiesta sulle nostre barche militari, e poi l'abbiamo visto, l'unico che ha difeso la propria posizione è stata la buona anima di Craxi, quando ci fu Sigonella. E quelli sono l'Italia, è proprio quella, e i politici nostri, trasversalmente, dalla destra fino all'ultimo grillino, sono proprio la faccia della merda, questo è il fatto. Benissimo, Alberto, se ti capita qualcosa all'estero, sono cacchi, non puoi avere speranza. Bene, Alberto da Verona, però, buonasera. Il caso di Sigonella è un po' diverso, diciamo. Alberto da Verona, buonasera. Sì, proprio. Allora? Niente, telefonavo per riguardo alla cura delle urine lì. Sì. Sì, che a Parenzo che fanno molto bene, basta guardare Pannella, è una vita che le prende, sta benissimo e fuma... Ma quale una vita? Ma non è vero? Ma ogni tanto quando fa lo sciopero della fame e della sete che beve lui. E poi la Marella mangia leggero stasera, perché le trippe sono molto leggere. Ah, la trippa è leggera? Sì, molto leggera, perché è priva di calorie ed è leggerissima. Sì, prima di allora me la faccio pure io la trippa, che dice lei? Ma poi c'ha più di 80 anni, che gli frega. Ma lei fa il macellaio, Alberto? No, non sono macellaio, sono uno che piace mangiare bene, faccio l'antiquario. Io. Dunque la trippa col sugo, con la mentuccia sopra, un po' di pecorino. È un piatto leggero perché non ha calorie, non ha grassi, non ha niente. Uno che vuole stare a dieta, se prende la trippa, è leggerissima. Bene. Con un po' di carotina, un po' di sugo, è leggerissima. Ha ragione Nannarella, ha ragione. Stupendo. Andrea da Bologna, buonasera. Buonasera, vada. Io avevo detto che parlavo di politica, però vi chiedo scusa, ho imparato da voi che i Marò torneranno in India. Sì. Ho imparato da voi ascoltandovi prima. Cioè, ha saputo. L'ho saputo da voi, sì, non lo sapevo perché allora? La notizia mi è giunta da voi. Allora, io oggi mi vergogno di essere italiano. Addirittura, su. Sì, dai. No, addirittura sto cazzo, perché un politico, un italiano che sia fiero di essere italiano, deve difendere i propri connazionali, difendere i propri militari, mettendoci la faccia, mettendoci i coglioni, mettendoci anche la vita. Perché sapete quando è stata l'ultima volta che l'ultima volta che si era fieri di essere italiani? Quando c'era Mussolini, gli altri dopo, vabbè, gli altri dopo sono stati tutti delle merde, ci hanno abbandonati tutti. È arrivato lui. È arrivato il campione del mondo, su. Meno male, va, che c'era È arrivato il fascista alle 20:53, su. Bene. Andrea? Ho capito, risponda. Sì, ma da Predappio, arrivederci. Allora che vuole? Cioè, prima dice l'ultimo che teneva la schiena dritta era Mussolini e poi adesso sta zitto. No, cosa c'è? Ma cosa c'è? Ma lei mi sta dicendo delle cose assurde. Ma delle cose assurde le dite voi, ma vi sembra normale una cosa del genere? Ma cosa? Ma... Lei parla, l'ultima persona con cui abbiamo avuto un orgoglio di patria era Mussolini, ma si rende conto della follia che dice o no? Ma la follia, ma state scherzando? Ma vado a Predappio, no? Lei. Ma vado a Predappio. Ma io a Predappio ci vado tutti i giorni. Ah, beh, tutti i giorni. Ma quando? Bravo, ma non ci credo nemmeno se lo vedo che lei ci va tutti i giorni. Dice che ci va tutti i giorni. Ci andrà una volta al mese a depositare qualche fiore, a fare una preghierina al suo duce, eh? Ma al di là del duce, ma vi sembra una cosa normale? Ma. Noi siamo presi per il culo dai politici, siamo presi per il culo dai nostri. Da chi? Dai nostri politici, dagli indiani. Dagli indiani, ma perché non gli rimandiamo indietro tutti gli indiani che abbiamo qua? Sì, peggio di coso, di Pennacchi. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Io l'ho bevuta per 4 anni consecutivi, una volta al giorno, al mattino, la seconda che facevo, 3/4 di un bicchiere d'acqua. Assolutamente, se ti ami ti sai anche bere, se non ti ami ti fa schifo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Andassero a fanculo gli pare, non mi rompe, andare a fanculo pure voi, ma che mi importa a me? Ciao, ce la faccio, ciao. Radio 24, la passione si sente.